nei quali non è che brilliate molto per attivismo, intanto l'avete aperto, diciamo, non tutti, ma coloro che non lo avessero ancora aperto sappiano che devono aprirlo, non è un'opzione, ma è una facoltà, è un dovere che fa parte del percorso sul quale dobbiamo lavorare. C'è chi è che non riceve le mail? Adesso scopriamo perché. E le tre persone sono? Lentini. Perché tu hai il trattino. Sì, il trattino alto. Benivegna. Perché non lo so. Forse perché c'è scritto Michele invece di Michele. Potrebbe essere una buona. Saluto. E tu perché lo ricevi? Perché c'è scritto Ermanno e non è Ermanna. Stesso caso. Lo vedremo. Vabbè, te adesso entri in circolo. Non lo sapevano gli altri. Ovviamente. Allora. Lunedì noi siamo in via D'Azeglio a fare lezione. Ho ricevuto una mail, una telefonata dalla segreteria italianistica che dice che nel laboratorio di informatica ci sono dei problemi perché non apre prima delle 9. Quindi noi faremo lezione dalle 8:30 alle 9 nel giardino del laboratorio di informatica, perché mi è stato chiesto se come mai iniziamo così presto. Mi sono sentito molto in colpa, ma vi ho spiegato che di solito pensavo che fosse aperto a quell'ora. Quindi noi dovremmo aspettare alle 9, telefonare alla signora Conti della segreteria di storia, abbiamo anche il numero di telefono, lei ci porterà la chiave, così che potremo eccezionalmente entrare nel laboratorio di informatica. Questo è ciò che ci aspetta. Lunedì alle 9, la stessa cosa, alle 8:30 noi ci vedremo comunque, la stessa cosa succede il 14 maggio, visto che noi avevamo chiesto il laboratorio di informatica per 4 volte, abbiamo un 50% di successo sul fatto di poter iniziare alle 8:30, ma questo è non fa notizia. Allora, ho visto che alcuni blog, che è successo? Litigato con un muro. Ha vinto il muro. Abbiamo detto la questione dei blog. I blog, ho visto che alcuni di voi l'hanno fatto, diciamo, specificamente dedicato al cinema o comunque a qualcosa di personale, quindi di diciamo di passione, di hobby. Altri l'hanno fatto un po' più generalista, altri l'hanno fatto in due o tre insieme, quindi adesso più o meno si sta completando il quadro, però davvero vi invito a farlo questo blog, perché dimostra anche la vostra voglia di essere online e non soltanto il desiderio e l'obbligo accademico. Finiamo il ragionamento, non credo ci siano persone che volevano occuparsi più di comunicazione politica, ma visto che si vota domani in Francia, avevamo detto di guardare un attimo la situazione mediatica e interattiva dei due candidati che sono rimasti al ballottaggio, cosa mi dite? C'è qualcuno che è andato a curiosare nel sito di Sarkozy e quello della Royal? Habla, ditemi. Cosa avete notato? Differenze, similitudini, particolarità? Prego. La cosa che mi ha colpito forse è la, diciamo, di Sarkozy. E molti hanno notato il fatto che lui intimorisce i media rispetto a alla Royale. Volevo sapere per quale motivo, cioè, quali erano i le caratteristiche essenziali per il Novace, perché si nota questo in Sarkozy rispetto alla Royale, forse perché la Royale è donna, non si succede, volevo sapere questo. Ok, e poi annotazione sui siti dei due? Il sito di Sarkozy ha molto più contenuti sulle interviste già fatte, si possono rivedere un sacco di filmati. Quello della Royale è più, almeno multimediale, ecco, in questo senso. E poi quello di Sarkozy sempre molto più di impatto, anche per il conto alla rovescia che continua ad andare per il giorno della votazione e ballottaggio. Sì, quello di Sarkozy è assolutamente più televisivo rispetto a quello del secondo della Royale. Per una scelta evidentemente pensata anche rivolta all'elettorato che abbiamo accaduto di fronte. Qualcun altro è andato a guardare i due siti? Nessuno? Infatti che vi devo dare poi, vi do i compiti a casa sul serio. Non lo fate. Allora. Vediamo se non abbiamo nemmeno la possibilità di farlo collegandolo da qui. Allora, quello che dice la vostra collega è corretto. Poi veniamo al discorso. Siamo su internet. Ci sono due approcci diversi, due possibilità di approccio diverso quando si fa comunicazione politica sul web. Però verificate le cose che vi dico, cioè andateci poi a guardare dentro, se no parliamo solo di teoria, cerchiamo di tradurla anche in pratica. L'atteggiamento di, in questo caso di Sarkozy, è un atteggiamento che riflette anche parte del programma elettorale del candidato gollista, cioè quello di mostrare ordine, di mostrare efficientismo, di mostrare razionalità. Dall'altra parte, secondo Royale, guardando un elettorato di centro-sinistra, meglio ancora di sinistra, socialista, punta molto sull'emozione, sul coinvolgimento, sull'idealità, non che è un valore o i valori di Sarkozy non appartengano all'altro, nel senso che poi tutti cercano di proporre un modello, diciamo, potabile, un modello complessivo che riguardi l'economia anche per la Royale, riguardi gli ideali anche per la partecipazione popolare, anche per Sarkozy sarebbe una follia candidarsi alla presidenza di un paese senza considerare tutto il paese. Però non c'è dubbio che anche nella costruzione di un mondo web c'è inevitabile, se non un'influenza, una tendenza a fare in modo che anche da un punto di vista mediatico si rifletta quella che è la visione politica dei candidati e dei mondi di riferimento. Il sito della Royale è un sito semplice, arriverei a dire quasi banale nella sua essenzialità. Perché? Perché si dà valore alle parole, per certi versi anche alle immagini, chiaramente qua il ruolo di una candidatura femminile ha un valore aggiunto, prima volta da sempre in Francia che un candidato donna arriva al ballottaggio. Dall'altra parte Sarkozy punta sulla concretezza, Sarkozy tra l'altro era membro del governo uscente, quindi ha la possibilità di mostrare risultati o comunque di mostrare l'offerta di una continuità. E questo si traduce appunto in quello che io proclamo, in quello che io propongo attraverso discorsi, attraverso progetti, attraverso teorie e dall'altra parte attraverso fatti. Cosa significa questo? Che indipendentemente dal fatto che ci troviamo di fronte a Royale Sarkozy, significa che chi può proporre qualcosa che è già stato fatto ha un grandissimo vantaggio nel potersi permettere di essere molto più accattivante, paradossalmente, perlomeno a un primo approccio. Dall'altra parte bisogna sapere emozionare, ma bisogna farlo andando a pescare anche nella mente, nel cuore delle persone, quindi bisogna farlo con un percorso più lungo. Cioè, la multimedialità, che è tradizionalmente, come sapete meglio di me, immediatezza, per chi si ritrova a sfidare diventa un ostacolo, perché presuppone proprio un percorso di ricostruzione della memoria o di ricostruzione anche del percorso politico. Questo dà un grosso vantaggio, non è questione di destra o di sinistra, dà un grosso vantaggio a chi è uscente, dà un grosso vantaggio a chi è già in campo, perché gli permette di mostrare le proprie mercanzie, un po' quello che si fa quando si va a un mercato rionale, il banco che già conosciamo di frutta o verdura o di abbigliamento, noi lo andiamo a vedere perché sappiamo che già ci mostrerà qualcosa. Un banco che arriva nuovo ci incuriosisce, ma siamo portati non tanto a essere diffidenti quanto a vedere, controllare, farci un giro, poi magari tornarci, poi ci convincerà o meno. Però ecco, non dimenticate mai la banalità dei... Io prendo il braccio così, non come una richiesta di intervento tutte le volte, solo così, è un modo per... L'abitudine delle cose normali si traduce anche nella costruzione dei mondi, chiamiamoli virtuali. La normalità delle cose quotidiane. Un sito web non è altro che la traduzione di ciò che avviene normalmente nella vita normale, almeno così dovrebbe essere se si vuole avere successo. Perché se Gorel Royal avesse cercato di dire io ho fatto questo, nessuno l'avrebbe creduto, perché qual è il grande svantaggio di partenza della candidata socialista? Infatti di non essere nessuno, di non avere storia, là, come ha fatto cose, ma non è paragonabile. Quindi deve rincorrere anche questo, deve portare. E allora come farlo se non attraverso discorsi, incontri, fotografie, programmi, progetti, idee? Alla fine il rischio è quello di sembrare impalpabili, ma non ci sono alternative. Non poteva neppure richiamare, lo fa, ma lo fa in modo laterale, lo ha fatto in modo laterale anche nei discorsi, non poteva richiamare neppure l'esperienza di Mitterrand, troppo lontana nella mente dei francesi, troppo discussa ancora oggi, troppo maschile per le vicende personali anche di Mitterrand. Essere candidato donna per la Royale non ha rappresentato un vantaggio, come spesso accade per le donne in politica, e non lo ha rappresentato a maggior ragione in un paese dove c'è stato un fronte fortemente maschilista che non l'ha aiutata, e tra questi c'è anche la figura di Bayrou, che poi era il terzo competitor di eccellenza oltre a Le Pen per quello che riguardava la destra più nazionalista. Tutto questo ragionamento, che non vorrei sconfinasse troppo nella politica, ma restasse nella tecnica, però davvero verificatelo, controllatelo. Adesso oggi i siti sono ovviamente chiusi, sono fermi perché non si può, c'è anche il discorso del rispetto delle regole, la campagna elettorale si è chiusa stanotte, scorsa notte, mezzanotte, quindi non si possono fare proclami, il web deve seguire anche queste regole. Per esempio nelle campagne elettorali in Italia del 2006, entrambi i candidati, sia del centrodestra che del centrosinistra, ignorarono bellamente la regola della campagna elettorale chiusa via web, continuando in modo subdolo a cercare di convincere l'elettorato. Perché? Perché c'è ancora una mancanza di regole precise, perché si possono fare comunque propaganda, no, propaganda non direttamente dai siti ufficiali. Poi il sito ufficiale cosa significa? Poi non è che ci sia un certificato per cui questo sito ufficiale deve avere delle regole particolari e altri no, c'è molta confusione normativa in Italia da questo punto di vista. In Francia non conosco sinceramente le regole, però mi passo di capire, vedendo adesso, aprendo stamattina i due siti, che ci sia un doveroso rispetto del silenzio e della giornata di riflessione fino del corso. Quindi i siti ormai, se non avete avuto occasione di vederli fino ad oggi, un po' li avete persi, li rivedrete a giochi fatti, ci saranno o foto di esultanza o lettere comunque di ringraziamento a chi ha voluto credere in questo progetto in ogni caso, quindi cose tradizionali che si fanno in questi casi. Però mi piaceva e mi piace sottolineare il fatto che anche nella comunicazione politica multimediale oggi siamo arrivati a un punto in cui la normalità delle situazioni quotidiane si riflette in modo pesante anche sulle impostazioni del messaggio stesso e del sito stesso, anche nella bidirezionalità, nello scrivere dei messaggi, nel proporre delle idee, nel confrontarsi, nel mandare delle mail. Segolen ha puntato più su un blog rispetto a quanto abbia fatto Sarkozy, perché c'è un atteggiamento dove ipoteticamente viene vista la figura della Royale come una figura più vicina alla gente, senza che questo sia provato da nulla, ma il fatto stesso che i due abbreviativi delle due nomi siano per uno il nome e per l'altro il cognome, cioè Segò e Sarko, dall'idea di come ci sia una differenza nella percezione della gente, su quello ovviamente i comunicatori o gli esperti di comunicazione dei due candidati si sono spesi, hanno ragionato, e domani vedremo, anzi domani sera vedremo chi avrà avuto ragione. Come vi ho già detto, la questione dei sondaggi, ve l'ho già detto l'altra volta, ha pesato moltissimo in Francia che non era paese abituato a credere ai sondaggi, c'è stata una esplosione di questa, chiamiamola scienza, perché poi alla fine scienza sarebbe, e si è vissuto molto sui sondaggi. I sondaggi hanno influito molto sulla campagna elettorale, hanno influito molto anche sulla sconfitta di Le Pen, ad esempio, è stato molto penalizzato dai sondaggi, oltre che dal voto reale. E lo stesso per certi versi, al contrario, è successo per Bayrou, perché siccome c'era bisogno della Francia di avere un terzo incomodo, visto che si sapeva che nessuno di due avrebbe potuto vincere al primo turno, era necessario creare l'effetto Bayrou, e quindi anche nella sondaggistica Bayrou ha avuto forse più voti poi di quelli che realmente è riuscito a incamerare, o ne ha incamerati molti anche grazie ai sondaggi. Questo discorso ci porta anche a considerare come il web sia terribilmente utile in politica e sia terribilmente capace di muovere le coscienze sulle masse e le opinioni. Perché? Perché a differenza del messaggio che ci arriva attraverso la televisione, attraverso le interviste dei giornali, attraverso i discorsi della radio, l'internet dà l'illusione di poter essere autonomi, di poter percorrere sentieri di conoscenza che siano completamente responsabili. Ovviamente non è così, se non altro per le tracce che si lasciano sul web, perché tutto quello che noi facciamo su internet è attentamente osservato. Non esiste fonte anonima o ruolo anonimo sul web. Con metodi legali o meno legali, attraverso i server su cui si lavora, si raggiunge tutto. Si raggiunge chi è, chi non è. Si raggiunge anche il fatto, purtroppo, che se io vengo a vedere un sito politico, io so poi che cosa hai guardato prima e che cosa andrei a guardare dopo. Quindi io posso capire che tipo di persona sei, che gusti hai, che passioni o funzioni hai, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è pericolosissimo. Pericolosissimo perché è, oltre che essere illegale, è uno strumento di condizionamento. Se poi dopo io voglio metterti un database particolare nel quale ti posso considerare un potenziale amico, un potenziale nemico, un appassionato di determinate cose o meno, quindi posso indirizzarti messaggi di un certo tipo. La politica è fatta di contatto e di messaggio. Adesso scendo di più a rispondere a quello che tu mi dicevi. La politica è fatta quindi anche di essere suadenti, di essere convincenti, di essere di essere la persona, quando uno è candidato, che ti dà la fiducia o cui tu, nella quale tu riponi fiducia. Io, se scrivo una lettera a un giornale, se faccio un'intervista a un giornale, so teoricamente quale pubblico mi leggerà. Se do un'intervista a Libero o la do all'Unità, so che ci sono lettori diversi. Se do un'intervista a Canale 5 o al TG1, so che avrò un pubblico generalista, ma comunque con delle sfumature. Se scrivo un manifesto e lo pubblico in certe città, in metropoli piuttosto che in paesi, dovrò usare messaggi diversi. Quindi so che cosa faccio, so a chi punto. Su internet no, su internet io vado nel generale, lo metto lì. Devo rivolgermi a tutti, non faccio il sito, questa parte del sito è riservato a chi ha la laurea, questa parte del sito è riservato a chi è donna, a chi è uomo, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che rischio molto. Il mio scudo protettivo, la mia arma di difesa è appunto la possibilità di sapere chi è che mi viene a trovare, chi è che mi clicca, chi è che mi naviga, per quanto tempo sta. Le statistiche sono fondamentali in internet. In informatica sono il vero potere. I flussi di domanda sono meno importanti, le mail che arrivano sono meno importanti, ma se uno mi sta sul sito un'ora, ci sarà per due ragioni: o perché mi vuole studiare, analizzare per criticarmi, o perché è incuriosito veramente per farlo. E io li posso ulteriormente indagare per capire se quello è il mio potenziale lettore o meno. Qui stiamo parlando di singole scelte, ma stiamo parlando di numeri molto grandi, di numeri ancora piccoli in Italia, ma che saranno sempre più grandi. Questi riferimenti che vi sto facendo li faccio soprattutto sulla esperienza americana, dove praticamente ormai tutto viene studiato attraverso questo meccanismo. Visto che ci siamo un po' persi, le elezioni francesi non sono state abbastanza convincente io nel dirvi di seguirle attraverso un web, consideriamo ad esempio, stiamo in ottica americana, i siti che già sono stati aperti per le presidenziali dai principali candidati, sia dei democratici che dei repubblicani, come McCain e Giuliani per i repubblicani, Obama, Barack e Hillary Clinton per i democratici. Non saranno solo loro poi i candidati, perché le primarie si presenteranno in molti, però abbiamo già quattro persone, due democratiche e due repubblicani, che stanno investendo milioni di dollari in una campagna elettorale che è fra due anni e mezzo. Perché? Perché internet inizia a sedimentare le cose. Uno spot pubblicitario, un'intervista a un giornale non lascia la traccia oggi. Abbiamo appena passato il medio termine per Bush, nonostante la crisi, eccetera. Cioè, lui è il presidente degli Stati Uniti e nulla in America è rispettato comunque come la figura del presidente degli Stati Uniti. Perché c'è un senso della patria, dell'orgoglio nazionale, del rispetto delle regole, delle istituzioni tali, per cui il presidente è George W. Bush. Ma internet è un mondo parallelo in questo caso. Gli attacchi che non si fanno in televisione, che non si fanno sui giornali, che non si fanno, oppure le promesse di continuità e di maggiore impegno che vengono dai repubblicani, hanno un linguaggio, diciamo, pubblico, e hanno un linguaggio diverso su internet. Perché internet ti permette, nel caso della Francia di essere sulla partita in modo diverso, nel caso degli Stati Uniti di essere, iniziare a mettere dei semi, a mettere lì comunque dei progetti, a mettere lì delle tracce che permettano di raccogliere un esercito, se non di persone, di idee. La prima cosa che hanno fatto tutti questi quattro candidati è stata quella di proporre il loro modello, ma soprattutto di aprirsi al confronto, al dialogo, di dire diteci cosa ne pensate, scriveteci, mandateci cose, contattateci, volete essere i nostri volontari, volete finanziare la nostra campagna. 2 anni prima, e sono già partiti da un bel po', ovviamente, però su internet ci sono già dei progetti specifici di un certo livello, e ovviamente ci sono già i siti che contrastano questi siti, perché poi ci sono i siti ironici e satirici nei confronti di questi candidati, ci sono i siti paralleli che i candidati stessi fanno, perché il sito ufficiale mantiene un certo livello di correttezza e anche di eleganza nei contenuti, e poi ci sono dei siti riconducibili a, mettiamo, Hillary Clinton, dei siti riconducibili a Hillary Clinton, dove i linguaggi sono più feroci nei confronti degli altri candidati, che siano democratici o repubblicani. Noi non riusciamo ancora a fare questo in Italia, in parte anche in Francia, in Europa, comunque è tutto concentrato in un unico mondo. In questo, un tentativo più americaneggiante era stato fatto, ed è stato fatto da Berlusconi in Italia, che è riuscito a fare una serie di siti satellite intorno ai siti personali. Lo stesso fatto di non avere un sito personale, se voi digitate Silvio Berlusconi, vi reindirizza Forza Italia. Una scelta voluta, una scelta che poi apre un mondo di altri satelliti, una scelta molto più americaneggiante. Però tenete presente che qual è la cosa beffarda di tutto il ragionamento che sto facendo. Stiamo parlando di scienze, di tattiche che sono politiche, ma basate su un approccio alla politica che è riservato a pochi. Ricordate sempre, ve l'ho già detto le altre volte, consideratelo sempre come una sorta di punto di riferimento, cioè il fatto che non tutti hanno il computer, ancor meno non tutti usano internet, e anche tra coloro che usano internet non certo tutti, anzi la minima parte lo usa per informarsi e ancora meno per seguire la politica. Stride l'idea che la politica si faccia via internet. Non, perché? Già la politica non mi piace, già la politica la sopporto malvolentieri, me la devo anche andare a cercare. Non c'è motivo per cui io debba andare a cercarmi la politica. Perché dovrei andarmi a leggere, se io voto Sarkozy, perché devo andarmi a leggere il programma della Royal? Mi basta seguire il dibattito televisivo dell'altra sera, che è stato seguito da una cifra impressionante di francesi, che l'hanno seguito 20 milioni di francesi. In Italia l'ultimo dibattito televisivo, quello tra Prodi e Berlusconi nell'aprile del 2006, fu seguito da 11-12 milioni di persone a seconda. Non è una differenza di poco conto. La differenza deve far riflettere anche sulla, si era arrivati a un punto tale per cui anche la sfida tra un uomo e una donna, la sfida tra modelli, è una cosa diversa, tra personaggi anche nuovi. Abbiamo presente che la Royal e Sarkozy, per quanto navigati politicamente, sono due proposte nuove, nessuno dei due era presidente. In Italia sia Prodi che Berlusconi erano già stati presidenti, quindi c'è anche un'idea vecchia della politica, c'è un'idea di dire, tanto sappiamo che cosa dicono. Mentre invece questi dice, sentiamo, anche se ho già deciso che cosa voterò, sentiamo, quindi anche questo può aver influito. Però 20 milioni di persone che seguono un dibattito televisivo dall'idea, come è già successo nel primo turno, di quante persone erano andate al voto, quantità mai successa in Francia, l'85%, e anche probabilmente quello che accadrà domani al secondo turno, perché abbiamo presente in un giorno solo in votazione. In Italia c'è stato l'83%, ma in 2 giorni. Cosa significa anche questo? Significa che quindi internet è considerato con attenzione proprio per la riscoperta della politica che c'è in Francia. In Italia la politica via internet non viene considerata, le visite quotidiane ai siti dei partiti o ai siti personali dei personaggi politici sono ridicole, sono statistiche da terzo mondo dell'informatica. Allora, questo per dire attenzione a non pensare che la politica via web sia uguale dappertutto, abbia lo stesso valore dappertutto. Ogni situazione è diversa, è una situazione in totale evoluzione, è chiaro che accadrà sempre di più. Ci sono adesso le elezioni amministrative ed è chiaro che c'è un utilizzo di internet forte, ormai tutti i candidati, i manifesti dei candidati o addirittura quando vanno alle trasmissioni televisive si mettono o fanno le conferenze stampa, mettono il www, perché è diventato anche un segno di modernità, al di là di quello che poi si trova sui siti, che sono a volte una pochezza esasperante. Però guai a non avere un sito, guai a non avere un punto di riferimento multimediale, si dà l'idea di essere antichi. Anche questo è un linguaggio della politica, un messaggio della politica. Non avere un sito è oggi impensabile, eppure tante volte sarebbe meglio non averlo, se come viene fatto, come viene proposto il contatto con il cittadino o con il potenziale elettore. Quindi ogni situazione va considerata per quello che è, cioè per la sua singolarità. Adesso faccio io una domanda a voi, mentre vi chiedo ancora un fazzoletto perché non ce l'ho ridimenticato, come sempre. Avete un fazzoletto di carta? La domanda a voi che faccio? Voi, chi di voi mi sa dire, no, mi sa dire, o ha voglia di raccontare, se ha mai seguito la politica attraverso internet, che sia nazionale o internazionale? C'è qualcuno che si interessa di politica attraverso internet o se si interessa di politica? Presupposto che lo faccia, attraverso cosa lo fa? Oggi. I giornali online. Attraverso? I giornali online. Quindi non andando a cercare nei siti personali o nei siti dei partiti. No. Perché? Non ti viene nemmeno in mente di farlo? No, perché non ho un partito di riferimento, non mi interessa dei partiti. Tu affidi. Credo che siano troppo parziali per l'informazione. Io purtroppo dai partiti, però quelli che non voto, più che altro. Quelli che non. Sì. Quelli per cui non voti, sì. Per andarne a bombardare. No, no, comunque sono incuriosito per le singole campagne elettorali, comunque da cosa penso su determinati argomenti. Certo. Per situazioni locali o nazionali? No, nazionali. Cioè ci sono entrambi, cioè sia nazionali che locali. Allora, i giornali online sono una comoda evoluzione del giornale tradizionale, no? Ce l'ho lì davanti, vado dove voglio, ne sfoglio le parti che voglio, eccetera, poi da lì posso partire oppure abbandonare. Però per la politica sono una limitazione fortissima, proprio per un ragionamento che abbiamo già fatto una volta, cioè perché ripercorre un meccanismo che è quello dell'approfondimento soltanto se uno vuole, cioè quello che il giornale online dà soprattutto è quello di dare le notizie, di dividerle fortemente dai commenti. Mi spezza molto di più anche fisicamente. Tu quando hai un giornale cartaceo hai la notizia, hai attaccato, avvitato sotto lateralmente il commento, qua te lo devi andare a cercare. Solitamente il commento non lo leggi sull'online, l'occhio ti cade sul commento, non ti cade nell'online, te lo devi andare a cercare, quindi ti fermi alla notizia, ti fermi all'abstract, ti fermi alla statistica, al sondaggio, alla curiosità, all'episodio, che sia stato una denuncia piuttosto che un annuncio, ma non approfondisci la politica, anzi sei ancora più paradossalmente sei ancora più superficiale. Non è un'accusa di superficialità a te, ovviamente è una, sei ancora più superficiale di quella che potrebbe essere la lettura su un giornale, proprio perché sull'online la politica, come cioè un giornale online non si prende la, a meno che non sia un giornale politico in questo caso, non si prende il rischio di mettersi a dare troppe cose di politica, altrimenti perde. Però io lo faccio come te, Graziano, che leggendo i quotidiani cartacei, okay, trovare online sono forse per integrare delle cose. Ok, è una verifica, è una verifica di quello che succede momento per momento. Però giustamente i siti politici non hanno interesse, mentre il sito, se io adesso faccio un parallelo molto maschile, se io sono appassionato di sport e compro la Gazzetta dello Sport, però poi il sito della mia squadra di calcio, di pallacanestro, la vado a vedere, perché la passione in questo caso mi fa, mi dà un senso di appartenenza più forte rispetto a quello che può essere verso la politica. Per cui qual è il problema della politica? Il problema della politica è di farsi amare su internet, di farsi scoprire su internet. Oggi in Italia questo è praticamente impossibile, perché non esiste una politica che si faccia entrare dentro, è una politica che si fa osservare. E allora qual è la politica che paga? È la politica, diciamo, fatta dai non politici, tipo, facciamo caso di Beppe Grillo, per non fare nomi, perché attraverso continui atti di denuncia, continui atti di basta con questo tipo di politica, si fa politica, chiaramente, mi sembra un gioco molto evidente, a parte il fatto che poi Grillo ne approfitta anche per vendere i suoi DVD, le prenotazioni sui spettacoli, come giusto che sia, deve vivere anche lui, però contrastano un attimo le due visioni del mondo che propone, ma questo è un problema suo. È un modo per attrarre, è un modo per portare consenso, però non esiste mondo che sia più lontano dalla politica da quello che propongono questi siti blog, dove puoi soltanto commentare, non puoi intervenire veramente. Poi dice, ma commentare è già molto, sì, ma c'è modo e modo per far vedere i commenti. Ti metto quello che io penso e se vuoi devi andare a cliccare i commenti. Non esiste il fatto per cui la mia parola, il commento, e il commento ruota e faccio vedere che magari sono su 199 a mio favore, però sono sullo stesso piano. Sono io che decido le scadenze e le cadenze di internet, sono io che decido chi far apparire e chi no, sono io che decido di filtrare o meno. Non esiste un authority, non esiste una regola per cui tutto quello che viene postato in un blog appare, perché fino a un certo punto io posso decidere se metterlo. Fino a che punto credere, allora, adesso non ce l'ho con Grillo, ma fino a che punto credere che tutti i commenti vengano pubblicati? E se io mi posso permettere di accusare il potere, il palazzo, il mondo della politica, degli affari, dell'economia, di tutto il resto, fino a che punto io posso farlo e gli altri non possono magari criticare me? Perché se voi prendete un post, uno, qualsiasi, di Grillo, troverete che ogni commento è positivo. Il sospetto forte che qualcosa non quadri, cioè, o è così convincente, o è così amato, o è così seguito dalle persone, ma il fatto che non ci sia uno che dica scusa secondo me ti sbaglio. Probabilmente magari non vanno nel sito di Beppe Grillo perché già sanno che si comporta in questa maniera. Forse. Ho qualche sospetto che non sia così. Chiamiamolo un po' più di un sospetto, ma come? Fermiamoci alla parola sospetto. Ma va bene così. Perché come c'è un Beppe Grillo che dice queste cose, perché allora Tronchetti Provera piuttosto che Montezemolo o Prodi o Berlusconi non fanno un loro blog nel quale si fanno amare dai loro dipendenti o elettori e dicono come sei bravo, hai ragione, la pensi giusta? Perché è più facile essere contro che essere, cioè quando non sei al potere delle situazioni è più facile poter avere consenso, è normale che sia così. Quindi nella politica internet, oggi cerchiamo di chiudere il discorso sulla comunicazione della politica attraverso internet, però davvero se anche qualcuno di voi poi in sede di colloquio d'esame vuole portare un suo lavoro, una sua ricerca, un suo studio su quello che sta appunto che è avvenuto in Francia, che sta avvenendo in America, a 2 anni dal voto di Cotta. Se poi voi, una cosa che potreste fare, che è curiosità, che forse vi fa anche bene per tenervi legati al mondo, e iscrivervi alle newsletter che i candidati americani stanno proponendo, riceverete una quantità di informazioni di una correttezza, di una precisione, di una puntualità che vi stupirà. Provate a iscrivervi, non vi costa niente, vi potete cancellare in qualsiasi momento, l'unsubscribe è assolutamente rispettato negli Stati Uniti. Se lo fate scoprirete come la politica è veramente 20 anni avanti da quel punto di vista negli Stati Uniti. Quindi se volete proporre uno studio, una cosa del genere, non potrà che essere apprezzato. Il ragionamento sulla politica lo chiuderei proprio per quello che concerne il problema, il tema dell'interattività. Voi avete mai provato a scrivere a un sito di politica? No, presumo. Né per curiosità, né per interesse, né per motivazioni di altro genere, no? Se provate a farlo, se aveste provato a farlo, scoprireste che non vi rispondono, o vi rispondono in modo automatico, la vostra o la tua, a seconda della scelta che si fa, se essere più confidenziali o meno. Grazie per la mail che è stata inviata, ci risponderemo più presto, grazie per aver visitato il nostro sito. In italiano non mai dice prego per aver visitato il vostro sito, io volevo sapere qualcosa. Ma anche la preparazione, la formazione di chi risponde alla politica di Owens. Voi sapete che c'è l'etichetta, cioè l'etichetta intesa come galanteria e nel galateo elettronico, che prevede che non si debba rispondere mai a una mail o a un messaggio oltre le 24 ore. Subito c'è chi ha, in modo molto latino, detto che si può arrivare a 48, tanto per guadagnare una giornata, però non si può assolutamente andare più là. Io ad esempio ho delle persone che alla presidenza del Consiglio sono obbligate a rispondere entro le 48 ore, non lo fanno quasi mai perché ho verificato mandando delle mail anonime, però hanno pagato con la loro vita questo grave errore. Stiamo parlando di una cosa istituzionale, non c'entra con la politica, per certi versi è ancora più grave, anche se un cittadino chiede un'informazione o lancia una proposta oppure avanza una critica, è giusto che abbia una risposta personalizzata e personale. Nella politica è follia, invece, un conto è il dovere istituzionale, un conto è la politica. La politica, se qualcuno ti scrive, non puoi assolutamente perderlo, perché è già talmente lontana da te la politica, è già talmente lontana dai cittadini, che l'idea di lasciare nel web, nella rete, nel vago, una richiesta d'aiuto, una proposta, anche fosse soltanto un insulto, come spesso accade, non può essere tralasciato per una forma di rispetto, ma anche perché se qualcuno si è preso la briga di scriverti, di fare qualcosa, vuol dire che c'è comunque qualcosa che ti lega, che ti potrà legare, ti potrà far crescere, ti potrà far migliorare. Eppure questo non accade. Come lo hanno risolto i politici, soprattutto quelli italiani? Facendo i blog, che sono un'altra forma arrogante di allontanamento dalla politica. Io ti racconto la politica, ti racconto quello che faccio, ti racconto la mia giornata, la mia campagna elettorale, come sono felice di aver incontrato persone, eccetera. E chi se ne frega? Tu non mi devi raccontare quello che hai fatto, tu mi devi raccontare quello che farai, tu mi devi rispondere alle mie domande. Il blog non serve a raccontare la giornata. Il blog dei politici in America è il blog fatto ad esempio più di fotografie e di filmati, che fa vedere quello che ha fatto ma poi lo attacca a un progetto. Non è un racconto autocelebrativo. Questo, prendiamo un esempio di un politico non locale, nazionale e lontano da noi, ma che è sintomatico di come un blog non si fa, è il presidente della regione Campania, che è Bassolino. Se qualcuno di voi che è campano, nessuno. Liberi di poter insultare. No, ha investito molto nel blog, un blog estremamente partecipato, ma è totalmente suo, cioè non è un blog nel quale si possa interagire, sì, si può scrivere, si può commentare, ma resta lontano, cioè è un modo di arroganza politica, non è una critica specifica a Bassolino, però mi dà l'idea, è un'arroganza politica di chi intende le nuove tecnologie, l'internet in particolare, come qualcosa che avvicini alla gente, in realtà la allontana ulteriormente, perché eleva a regola politica il gossip, nel senso il diario personale, le esperienze, eccetera, ma toglie l'umanità. Nessuno mai racconta su un blog, se uno proprio vuole farsi un blog, i problemi che ha avuto, le inchieste a cui è sottoposto. No, per quel motivo se è un diario mi deve dire tutto. Non troverete mai un politico che dice ho preso una multa perché avevo stupidamente parcheggiato male la macchina. In America lo scrivono, perché sanno che comunque lo scopriranno. In Italia si ha sempre aspettato, lo faccio il furbo, non mi beccano. Questo è il livello diverso. In America ci sono sempre le telecamere delle televisioni locali, delle radio private che girano sulle autostrade in cerca di... Non è che quando vediamo gli inseguimenti è perché qualcuno è andato, è perché girano. Girano per vedere se accade qualcosa. Ma noi c'è la soffiata, c'è il pedinamento, c'è il tentativo di incastrare, c'è un occhio sopra, quindi sai che comunque l'occhio prima o poi ti prenderà. E allora tanto vale autodenunciarsi, essere sinceri, o essere come quando ci sono gli scandali più grossi, cercare fino al punto in cui si può di negare senza cedere, come fece Clinton. A un certo punto si inventò delle acrobazie lessicali, però dovete confessare, perché comunque al di là dell'aspetto puritano negli Stati Uniti c'è proprio l'impossibilità, la fuga dalle responsabilità. Volevo sapere se i giornalisti in questo senso per contestare a un politico, tra virgolette contestare, se contribuiscono anche loro ad esempio a fare tipo delle domande particolari. Per esempio in America, quello che so, fanno delle domande specifiche a un politico e alla fine il politico deve scegliere, come stava dicendo lei. Mentre qua in Italia il giornalista secondo me ha paura, cioè ha una sua deontologia che deve seguire, però secondo me non si mette tanto in campo per far dire al politico le magagne oppure le situazioni gravi che magari ha fatto. Beh, è il sistema stesso dell'informazione che è diverso, quindi è difficile anche che questo accada. Sicuramente sì, i editori puri non ci sono, quindi i giornali sono comunicati dallo Stato, dai giornali privati. Voglio sapere, cioè insomma l'America è da questo punto di vista più avanti anche nel... È diverso, è sempre stato, i giornali sono in mano delle fondazioni o sono in mano degli editori per cui decidono di investire. All'interno di un giornale americano c'è sempre l'ufficio legale che prima che un articolo venga messo sul giornale viene fatto vedere agli avvocati. In Italia il giornalista non accetta l'idea di far leggere un suo articolo all'avvocato prima che venga pubblicato, però può stare sicuro in America che quell'articolo, una volta che è stato pubblicato, verrà difeso fino in fondo dal giornale, non verrà abbandonato a se stesso il giornalista. Quindi c'è proprio una visione completamente diversa, e questa è diversa anche poi nelle altre forme. Ecco, vedete, se volete fare un giro a vedere, poi ci fermiamo un secondo, i due siti di Sarkozy e Bayard, ci sono appunto, non so se lo vedete da lì, quello di Sarkozy ha un, vedete? Sì. Quello di Sarkozy ha una sorta di orologio nel quale manca il tempo, dice, tra domenica tutto diventerà possibile, perché ha poi lo slogan per una frase si dà dal femminile, per l'altro tutto diventa possibile, e mentre invece quello della Royal ha una fotografia tra l'altro sbagliata, perché è una fotografia nella quale copre la bambina con i fiori non è il massimo, però prepariamo la vittoria del 2007. Sono siti che sono bloccati, hanno il punto di rispetto della giornata di riflessione, però sono i siti che sono studiati, non sono buttati lì per caso. Okay. Quindi il discorso della politica su internet è un po' questo. Voi avete qualcos'altro a chiedermi a proposito? O passiamo oltre? Siete soddisfatti? Sapete tutto? Bene. Allora passiamo oltre. Una delle cose che vi ho detto è quella di dirvi i mestieri che potete, le professioni che potete pensare di fare prima di chiudere definitivamente il discorso in futuro. Quello della politica e del web è uno dei temi, ad esempio, dove c'è una grossissima possibilità di impegnare la propria professionalità, soprattutto per quello che riguarda i contatti, i sondaggi, le analisi. Scrivere di politica sul web significa inventarsi un modo nuovo di fare politica. La politica tradizionale è fatta di enfasi, è fatta di ragionamenti, oratori, armaietti, ore e ore di discussione. I politici nel passato andavano in piazza, cioè nei comizi, parlavano per parecchio tempo, parlavano da soli. Prima c'era l'esponente cittadino, poi l'esponente provinciale, poi quello regionale, poi parlavano di ore e ore, ma ancora oggi in America Latina Chavez, quando parla alla nazione di settimana, parla per 4-5 ore. Da grande oratore, un po' originale, da grande oratore. E questo è un modo di fare politica. Questo sul web non è concepibile, ovviamente. Anche per una questione tecnica, se hai la banda larga puoi sopportare anche cose lunghe, ma basta non avere ADSL o SDN, hai dei problemi poi a seguire, o UMTS quando hai portati, hai dei problemi a seguire tutti gli scatti burattineschi dei personaggi che parlano, quindi devi essere breve e conciso anche in quello, soprattutto quando scarichi dei video. Devi essere breve, devi essere immediato, devi essere schematico, devi essere in un certo senso fatto a scatole cinesi, anche se non vanno molto in moda in questo periodo. Bisogna saper scrivere e scrivere in modo diverso per poter dare un'idea nuova della politica. Questo serve anche per tutti gli altri aspetti che riguardano internet, no? Come si costruisce il linguaggio del giornalismo e anche come si costruisce il linguaggio di internet. Il linguaggio di internet lo avrete già studiato, quindi non ve lo ripeto, è completamente diverso da quello della parola scritta, della parola concessa attraverso il dialogo e il confronto. Non ho bisogno, come se io studio le tecniche di seduzione o di consenso televisivo, non ho bisogno di guardarti negli occhi, ho bisogno di convincerti a stare lì un pochino, il più possibile, cercare da lì di andare ad altre cose che mi riguardino, comunque ad avere un contatto, se non subliminale, molto leggero, che diventi più efficace, più invasivo, più evidente per un'altra volta, sempre seguendoti con le statistiche. Se so che un giorno mi hai seguito per 20-30 secondi, la media di una pagina web è sui 26-27 secondi, quindi se ci stai un po' di più, se ci stai oltre un paio di minuti, ti ho quasi fregato, e quindi posso cercare di investire su di te. Come si ottiene questo? Si ottiene con un linguaggio che deve essere quello delle 100 parole. Dei 100 caratteri, scusate, non 100 parole. Sono i 100 caratteri che decidono se io sto lì. Sto parlando del testo scritto, poi c'è l'immagine, poi c'è il titolo, poi c'è il filmato, c'è il banner, il flash, il pop-up, il testo scritto sono 100 caratteri. 100 caratteri è difficile, difficilissimo, molto difficilissimo essere convincenti, essere attrattivi, essere diversi dagli altri. 100 caratteri sono pochi, 100 caratteri sono una frase del tipo sono stato bene con te oggi, spero di rivederti domani. Sono 100 caratteri, non lo so adesso, proviamo a contarli. Non andiamo molto distanti. Quindi, soltanto crearsi un mondo nel quale si va un po' a cavallo tra la pubblicità, la sociologia, la psicologia, la politica, appunto, e mischiare tutte queste competenze, metterle insieme, avendo una conoscenza culturale di un certo tipo, avendo la possibilità di fare riferimenti immediatamente percepibili. Se io uso linguaggi che fanno parte della storia del cinema, della letteratura, della pubblicità, dei personaggi che si vedono in giro, eccetera, in modo di dire, riesco a creare un contatto, riesco a creare un legame. Questo è un modo di lavorare che oggi in Italia è ancora agli albori. Scrivere testi per internet è un mestiere. Perché? Perché può essere un modo di formarsi una professionalità che oggi viene realizzata, se non esclusivamente, in buona parte, attraverso una evoluzione o una involuzione di quello che si fa. Il giornalista che è abituato a scrivere un articolo di 3.000 caratteri e che ha come regola giornalistica quella delle 5 più doppie, eccetera, eccetera, deve cambiare completamente il suo modo di scrivere. Però il tema della politica, ma lo vedremo anche quando parliamo di cronaca, quando parleremo meglio ancora di giornali normali. Sistema della politica, io non ti devo dire, io ti propongo di cambiare la società attraverso una partecipazione più profonda, che sia parte integrante delle politiche del governo di un territorio, di una nazione, perché ci vuole maggiore sviluppo, maggiore equità, maggiore condivisione, eccetera, eccetera, eccetera, ma ti devo dire, senza trasformarlo in uno slogan, altrimenti è pubblicità, ma non perché ci sia un problema etico, perché non viene percepito come messaggio politico, viene percepito esclusivamente come qualcosa di elettoralistico. Devo essere un po' la trasformazione di quello che fu il grande successo, chiamiamolo anche in questo caso pubblicitario, del messaggio che il governo americano faceva quando chiedeva ai soldati di arruolarsi, no? Lo zio Sam, visto che scritto a volte, non c'era nulla, era subliminale, eri tu che dovevi capire chi era che te lo diceva, perché te lo diceva e con che forza te lo diceva. Allo stesso tempo su internet tu devi mettere insieme tutte queste cose, scrivere pochissimi concetti, a volte un concetto solo e dire I want you, nel senso vienimi dentro a cercare, vieni a scoprire cosa c'è dietro questo. E da lì declinare tutto, ma non declinarlo che ti ho messo 100 caratteri, clicchi e c'è Chavez che ti parla da 5 ore. Devi essere anche in un certo senso programmato e progressivo. Lì ce n'erano 100, poi ci sono schede. Ce ne sono 400-500 caratteri, ci sono mondi, ci sono possibilità di confronto, ci sono i forum, ci sono i forum di discussione, eccetera, eccetera. Perché poi c'è tutto questo discorso che adesso lo diciamo per la politica, ma vale poi per qualsiasi sito internet o per qualsiasi realtà, io ti posso guidare a scrivere un po', a scrivere un po' di più, a scrivere un po' di meno, a mandarmi più cose, a mandarmene altre. Compila il forum. E so tutto di te o so questi cambi sono obbligatori perché questi con l'asterisco i cambi con l'asterisco sono obbligatori. Chi l'ha deciso? La decide chi? Decide che voglio sapere un po' di più, che voglio non far vedere quanto voglio sapere di te, è tutto molto subito quello che vi sto raccontando, ma lo sapete meglio di me. Però tenetelo sempre presente, non consideratelo come una intercettazione della vostra vita. Inevitabilmente, ogni volta che voi accendete il computer, entra in azione un meccanismo di controllo, volontario o involontario che sia, ormai tecnologicamente fatto così. È un po' il discorso di come di avere i cellulari accesi, di sapere che c'è qualcuno che sa dove siamo, perché attraverso il GPS del GSM ci si scopre, no? E addirittura, anche se lo si tiene spento, come sapete, bisogna togliere la batteria, e anche attraverso la batteria non tolta si può trovare attraverso il numero di scheda seriale. Ma vabbè, queste sono cose che ci dovrebbero preoccupare talmente tanto che è meglio non saperle fino in fondo. Il tema dei form, il tema delle possibilità di accedere alle informazioni, lo si fa sulla base di quante informazioni tu in cambio mi dai. Io ti permetto di entrare nel mio mondo secondo di quello che io ti chiedo. Se tu rispondi bene, se no mi dispiace, non è stato compilato completamente, devi riprovare. Cioè non c'è una possibilità di dire vabbè, non l'hai fatto tutto, non sei stato bravo fino in fondo, ma poi lo stesso accedere dei servizi. Internet è spietato da questo punto di vista. Guarda, io vi sto dicendo delle cose che sono la banalità più totale, perché la vivete quotidianamente quando dovete iscrivervi a una promozione pubblicitaria piuttosto che... Però guardatela nell'ottica nella quale vi sto cercando di portare, cioè il fatto che voi stessi potete essere, se non protagonisti di questi modi di essere, di fare, che potrebbero anche non essere particolarmente soddisfacenti da un punto di vista etico, sapere almeno che ci sono, sapere almeno che fanno parte di tutte le vostre azioni quotidiane, non fanno parte soltanto di quelle in cui voi pensate di essere attori, dire ora decido che voglio iscrivermi a una chat piuttosto che comprare all'asta di eBay per cui fornisco quel genere di informazioni. Anche perché, ulteriore cosa che già ben sapete tutti, i vostri indirizzi sono sempre in vendita. A volte vi capita di ricevere delle mail o delle cose, cioè, ma come cavolo fanno a sapere che io vado a cavallo? Eppure ti arriva la mail di quella che dice una splendida sella solo per te. Cioè, perché tu una volta hai scritto, hai messo il flag sul fatto che ti piace l'invitazione su una cosa che magari era 100 siti più in là. Quei indirizzi Instagram sono stati venduti, così come in politica vengono venduti nell'avvicinarsi delle scadenze elettorali, no? Sono quelli che la vita è la società che si ripete, così come quando succede che muoia una persona cara e dopo due minuti c'è la cassetta alla posta e ti telefona quello delle pompe funebri, ti telefona perché cioè, sono quelli che vanno a sapere all'obitorio, guarda, informano e chiamano. Questo è esattamente, si ripete in modo un pochettino più tecnologico, il meccanismo, quindi fa parte dei limiti della società. Quindi i form, dicevo, che si fanno sono form che si compilano sulla base non delle nostre esigenze, ma sulla base di chi vuole sapere cose da noi. Ai forum si partecipa se sono mediati o non mediati, alle chat pure, alle possibilità di postare i blog ancora. In questo la politica può giocare un ruolo determinante, perché si può decidere cosa rispondere, se rispondere automaticamente grazie alla mail che mi ha inviato, se invitarti a un forum di discussione, se dirti ma guarda però allora vai alla sezione del partito oppure vieni nei circoli del movimento là, perché sul territorio contatta la persona oppure verrai contattato da... È un lavoro, non è un lavoro soltanto dell'attivista di partito, è un vero e proprio lavoro. Se uno si specializza a saper scrivere di politica su internet, che è un mestiere completamente diverso da saper scrivere su politica, di politica tradizionalmente, fa un lavoro. Quello che vi sto dicendo della politica vale per qualsiasi cosa che abbia una sua specializzazione e che possa essere legata a dei mondi che possano sopportare un costo per fare questo. All'inizio potrà essere un lavoro volontaristico quasi, ma più voi lo specializzate, più sarete arrivo a dirvi appetibili sul mercato. Se uno di voi si presenta, indipendentemente dalle proprie passioni politiche, questo stiamo parlando di lavori professionali, uno si presenta da un partito e dice: io ho fatto questi 15 studi sulle elezioni politiche del 96, del 98, ho analizzato i tipi di linguaggio, so come si risponde alle mail e alle cose, so come ci si comporta da questo punto di vista, sono laureato in scienza della comunicazione, in queste cose, non vi fanno uscire dalla porta, non uscite dalla porta, vi tengono lì subito, perché nessuno lo fa. Perché tutti dicono: no, mi piacerebbe lavorare qui, sai, sono, faccio solo la radio scienza della comunicazione. Beh, se, se, aspetta che prendo gli altri curriculum che sono arrivati e vediamo un po'. Dovete proporvi con qualcosa assolutamente di nuovo. Questa è una cosa che spero, se no mi verrebbe reso il mio ego, spero fosse una cosa alla quale non avevate pensato, di occuparvi di politica in modo professionale. È un modo per fare, per lavorare, è un modo per lavorare anche in un campo che ha degli scenari e delle possibilità di successo professionale notevoli, perché è un modo di lavorare nuovo, perché le prossime elezioni politiche del 2011, se ci saranno 2011 o prima, se la legislatura finirà prima, saranno basate molto di più su internet di quel che lo erano, lo sono state le precedenti, semplicemente perché più persone avranno accesso a internet, più vita si sposterà su internet, eccetera. È un'opportunità. Se poi questa opportunità ha anche un valore aggiunto dato al fatto che avete una predisposizione, una simpatia, una passione politica, fate anche un lavoro che vi piace di più fare perché credete di più in quel lavoro che fate, altrimenti è come andare, so che è molto triste, ma è come andare a lavorare in banca. Non è che voi siate tifosi di Banca Intesa, se lavorate a Banca Intesa vedete Corrado Passera e baciate i suoi manifesti per strada, però vi dà uno stipendio e lavorate in quella banca, poi non avete particolari passioni per Banca Intesa piuttosto che per Unicredit. Allo stesso caso voi potete andare a lavorare in un partito e poi essere i più anarchici del mondo, ma quel lavoro farlo professionalmente bene. Non è che la politica obblighi ad avere una appartenenza, assolutamente, anzi la maggiore, la migliore lucidità politica la si ha quando non si è coinvolti, altrimenti si perde di vista anche molte volte la realtà delle cose nelle quali si è immersi. E molto, e lo sapete perché avete letto esperienze di questo genere, molte volte i comunicatori di successo sono quelli che non hanno nulla a che vedere con il politico o con il partito, hanno storie personali completamente diverse che si vanno a unire solo in quel momento, perché in quel momento c'è l'interesse congiunto e comune di arrivare al risultato. Quindi non pensate che la politica non fa per voi solo perché non vi piace la politica o perché non lavorereste mai per questo o per quel politico. Consideratelo come un'opportunità di lavoro e credetemi, è un lavoro nel quale ci sono molti spazi, proprio perché non c'è preparazione, non c'è professionalità, non c'è diciamo interesse, non c'è nemmeno investimento culturale, perché per voi mettervi a studiare un programma, dire io so scrivere in tutte le forme informatiche, so usare Photoshop, so tutto della politica via internet che è stata fatta dal 98 a oggi, altro che Photoshop. Capito? Quindi questo, siccome in Italia l'unica cosa che non mancano mai sono le elezioni, abbiamo elezioni di ogni genere, ci manca solo quella dello sceriffo, solo perché non abbiamo le contee, arriveremo anche a fare quello, consideratelo un'opportunità seria di lavoro. Ok? Qui chiudo il discorso sulla comunicazione politica, perché vorrei chiudere ogni discorso che vi faccio con una, con un risvolto, con una declinazione concreta, che è quella sulla quale potete investire. Ci fermiamo 5 minuti, poi iniziamo a parlare di comunicazione. Quindi lo faremo lunedì 7 e lunedì 14. Mi rispondo alla argomentazione pubblica. Innanzitutto, domandina semplice e semplice. Cos'è la comunicazione pubblica? Buttate le mani, buttate il cuore. Adesso non vale come mi rispondete all'esame, sì, ma adesso non vale. Cos'è la comunicazione pubblica? Quindi. Sono tutta una serie di uffici che si occupano di relazionare un ente con il pubblico, siano essi cittadini, siano essi consumatori, come per esempio l'URP, cioè l'ufficio appunto della relazione col pubblico, o l'ufficio stampa per relazionare con i media. Ok, poi altre disaltre letture di comunicazione pubblica? Siete d'accordo con la vostra collega? È solo un esempio, forse. Cioè, quello che sai. La comunicazione pubblica, secondo me, tutto ciò che serve a rapportarsi col pubblico, sì. L'unica cosa che mi viene. Far sì che il pubblico è l'opinione pubblica, cioè che sembra formare l'opinione pubblica. Allora, questa è una risposta pericolosa. La comunicazione pubblica che forma l'opinione pubblica vuol dire che si hanno un'idea di volerla rendere acquiescente i propri desideri. La comunicazione pubblica è servizio, è un servizio. Un servizio perché è un doveroso meccanismo di mettere in rete delle informazioni a disposizione di chi ne ha diritto, cioè se no sarebbe una comunicazione privata, sarebbe una comunicazione di impresa, sarebbe una comunicazione mirata, una comunicazione generale rivolta al pubblico. Presuppone che sia una realtà pubblica farla, che non è una banalità, perché una realtà pubblica non può e non deve avere dei precondizionamenti e soprattutto essere condizionante, deve fornire delle informazioni. Che differenza c'è tra informazione e comunicazione? Altri due, non rispondete sempre ai stessi. La differenza c'è tra informazione e comunicazione. No? Nella comunicazione si sentite dall'altra parte, ci sia qualcuno che risponde. L'informazione la dai chiaramente per dire a qualcuno, ma non necessariamente ti aspetti una risposta. Vuoi provare? Forse con l'illusione. Io dico una cosa, l'informazione, io dico una cosa per dare una notizia, cioè un po' contorto, ma siamo già più vicini. Allora, la nostra informazione è una serie di notizie che, non lo so, magari ti possono dare anche per te, mentre con la comunicazione queste notizie vengono date anche agli altri, cioè vengono comunicate, vengono divulgate. Sì, più preciso ancora, l'informazione è diretta, cioè una fonte di tale notizia, la comunicazione è qualcosa che comunque è interpretata, immediata. Quindi è sbagliato, ad esempio, parlare di comunicazione pubblica. Noi dovremmo parlare di informazione pubblica. Perché se presupponiamo di parlare di comunicazione pubblica, diamo per scontato che ci sia qualcuno che interpreta le informazioni che noi dobbiamo dare al cittadino, all'utente, al cliente, eccetera, eccetera, di un servizio pubblico, e che lo interpretiamo a modo nostro. Questa è la teoria. Nella pratica è più corretto chiamarla comunicazione pubblica, perché è inevitabile che l'informazione sia mediata, perché comunque c'è qualcuno che possiede quelle informazioni e rende comunicazione attraverso comunque la sua lettura. Faccio un esempio molto chiaro e molto difficile da smentire, visto che mi riguarda. Io ho la responsabilità della comunicazione di un governo, e per quanto io possa lasciare da parte le mie idee personali, non le potrò mai lasciare da tutto da parte. Per quanto io sia professionale al 200%, per quanto io sia corretto al 200%, non lo posso essere del tutto. Avrò comunque la mia intenzione di raccontare le cose nel modo il più possibile inattaccabile, ma non per un senso di paura di essere attaccati, nel senso di fare bene il proprio lavoro. E comunque presuppone l'intervento di una visione delle cose. Questo è un discorso, tra virgolette, di comunicazione di governo, quindi comunicazione molto, diciamo così, vaga, nel senso che non è la risposta di una comunicazione che viene da un'azienda sanitaria piuttosto che da un'azienda municipalizzata del gas e dell'acqua. Deve rispondere comunque, non è che può rispondere dicendo sì, lei ha un problema ai tubi, ma si ricordi che il suo sindaco è il migliore che abbia mai avuto. Non è forse l'occasione nel caso di dirlo, soprattutto se è senza gas da una settimana che scrive una mail in questo senso. Diverso è il discorso quando si fa su cose più generiche, quando si deve raccontare le politiche di un governo, di un'amministrazione, di una realtà. Per cui anche sul discorso di informazione e comunicazione pubblica, dobbiamo parlare di comunicazione pubblica, anche se dovremmo parlare, sarebbe più bello parlare di informazione pubblica. E comunque ci sono molti modi e molti mondi di comunicazione pubblica. C'è la comunicazione pubblica, e non è una questione di se è fatta a livello nazionale, internazionale, o se è fatta a livello di quartiere. Non è una questione che è più importante perché è più grande. È una questione proprio di modi, di modi di lavorare. Ci può essere molta più politica nella comunicazione pubblica fatta da un consiglio di circoscrizione, da un consiglio di quartiere, che ci possa essere fatta all'Unione Europea, proprio perché è più facile essere sotto controllo, monitorati, eccetera, rispetto a quello che può essere in una realtà così piccola che subisce questo, il fascino del potere, insomma. La funzione di internet, il ruolo di internet, il vantaggio di internet è di rendere questo tipo di comunicazione da unidirezionale o al massimo bidirezionale a essere multidirezionale. C'è un'evoluzione fisica che è quella, andiamo indietro con gli anni delle barzellette, quando c'era il famoso ufficio reclami. No, nelle barzellette c'è sempre quello dell'ufficio reclami, c'è la battuta, io ho perso questo, eccetera. Gli uffici reclami non esistono più perché è una concezione di pubblicitaria del sistema. Se io scrivo ufficio reclami vuol dire che c'è qualcosa da reclamare, non esiste che il cittadino possa reclamare. Esiste che ci sia l'ufficio rapporti con il pubblico, con relazioni con il pubblico, ci sia l'ufficio, il contact center, il call center, il media center, perché poi gli inglesismi aiutano molto a dare un'idea di efficientismo, no? Sarebbe molto bello anche da un punto di vista proprio di sparigliare il campo, da un punto di vista, se vogliamo, anche mediatico, richiamare uffici reclami, perché in fondo buona parte delle questioni per cui ci si rivolge o una pubblica amministrazione, una realtà comunque pubblica, eccetera, eccetera, riguardano sempre qualcosa che non va. Difficilmente ti scrivono per gli altri, sei fantastico, no? pagato la bolletta, ma non ne frega niente, sono felice. Non succede spesso, così come succede a quello che leggo che riguarda le mail che arrivano ad esempio a Palazzo Chigi. Evito di raccontarmi per pietà. Il discorso è che è difficile parlare l'ipotesi di ufficio del Frati perché si è venuta a creare una idea del contatto con il pubblico come di un'idea di servizio, non più di un'idea di relazione. Tu mi scrivi perché vuoi che il servizio sia efficiente, che l'amministrazione sia efficace, che sia equa, che sia onesta, che sia veloce, che sia rapida. Cosa meglio di internet? Ufficio del clan, ufficio dell'azione con il pubblico, numeri verdi, call center, contact center, internet. Adesso a volte è messo tutto insieme, ci sono tutte queste possibilità di interazione, però ci si spinge sempre di più verso internet, perché per internet ti permette di fare la prenotazione online della visita medica o del biglietto del treno, perché anche le ferrovie dello Stato, facciamo un esempio, sono una realtà pubblica, al 100% pubblica, non c'è un imprenditore privato, quindi un servizio per il quale noi paghiamo, oltre al costo del biglietto del treno, paghiamo anche tutti i servizi che ci sono, le informazioni, eccetera, le richieste. Il ragionamento quindi è che ci si va specializzando anche in questo caso verso una multidirezionalità, una multirelazionalità che ha in internet un suo discorso della funzionalità. Come vedete c'è dentro molta politica. Ma io vi sto facendo un ragionamento di autodenuncia, chiamiamola, per dirvi come se questo è il tema. Ancora di più le situazioni locali, perché il direttore di un'azienda sanitaria come non vince il concorso, l'amministratore delegato della specializzata del gas viene scelto, quindi anche da lì tutto cambia. Questo non è per darvi il senso di sfiducia nei confronti del sistema di potere, ma per dirvi come la comunicazione pubblica è basata su delle concezioni comunque che non possono essere considerate come dovrebbero esclusivamente in servizio, a meno che non si scenda nello specifico della richiesta minimale. A che ora aperto un ufficio, come ci si scrive a un esame, la prenotazione, un servizio, che numero di telefono devo trovare, perché non è interesse di nessuno non dare quelle informazioni bene e in modo rapido. Quindi tenete presente che quando parla di questo mondo che ha a che fare con un investimento diretto da parte dello Stato, delle istituzioni, delle regioni, delle province, dei comuni, si ha a che fare sempre con una visione che è mediata molto di più. L'azionista è comunque la politica, come l'azionista di un'azienda privata è l'imprenditore che ha il pacchetto di maggioranza della società, quindi ha interesse a portare avanti quelle politiche anche e soprattutto nel suo tornaconto, questo avviene in modo diverso, ma avviene anche per quello che riguarda il mondo nel quale siamo coinvolti. Il rettore che viene rieletto tra poco viene rieletto sulla base di programmi che possono avere più o meno interessi o coinvolgimenti di un certo tipo. Non ha fatto il mission sua personale basta. Non è un'accusa ai candidati che anzi vanno rispettati perché si candidano a fare elettori, ma comunque lo fanno in una visione in un'ottica di. Quando dire, quando se si fa una domanda diretta, perché mi pare che sono tre i candidati al mandato elettorale, gli si dice chi c'è dietro di voi, di rispondere, studenti, dipendenti, non hai capito, chi c'è dietro di voi? Domanda la risposta. Non è un'accusa questa, perché è così che è. Io preferisco molto diretto, molto concreto con voi, dirvi come stanno le cose, per considerare anche che tutti gli approcci che dovete avere da un punto di vista scientifico, da un punto di vista di studiosi, quali siete, dei meccanismi di comunicazione, non possono prescindere da questa lettura, anche nelle situazioni che possono sembrare più banali di servizio. Per quello è corretto paradossalmente chiamare la comunicazione pubblica perché è qualcosa di mediato per vari livelli di interesse. più alto e più nobile, almeno alto e meno nobile. Dal più corretto, dal più tendenzialmente corretto al più scorretto. E non è, non intendo con questo dire la politica è inteso come in un certo senso il rapporto tra chi detiene la possibilità di scelta, una volta può essere la politica, l'altra può essere un gruppo di pressione, l'altra può essere un direttore generale che è incardinato in una realtà da 30 anni ed è molto più potente del politico di turno che viene per un anno a fare il presidente di quella società e quindi crea un meccanismo di comunicazione o non lo crea, un flusso di informazione a seconda di quelli che possono essere gli interessi o le esigenze o le idee sul servizio. Quindi prima di parlare di qualsiasi cosa che abbia a che fare con il linguaggio tenete presente chi è il committente, quello che nel Medioevo, nel Rinascimento era la corte, quindi il principe, oggi è il, tra virgolette, il potere, non inteso in senso negativo, inteso in senso reale, nel senso che è qualcosa che governa le situazioni e senza le quali comunque le situazioni non potrebbero andare avanti, nel senso che sarebbe l'anarchia totale, che sarebbe un movimento antisistema che non sarebbe altrettanto vincente, che non sarebbe altrettanto aperto, perché sarebbe comunque riservato a pochi che lo vogliono proprio. Vi ho fatto tutto questo lungo ragionamento molto, se volete, così valido, e spero in realtà non sia stanco, per spiegarvi come vi dovete approcciare anche a questo mondo non con sospetto, ma con intelligenza. Intelligenza, voi avete delle fortune, avete l'opportunità per gli studi che avete fatto, che state facendo, di saper leggere filigrana le situazioni, sapete che cosa vi propongono, sapete che cosa voi volete. Se un se voi andate sul sito della Camera e sul sito del Senato, prendiamo due istituzioni. Il sito della Camera e il sito del Senato sono completamente diversi. Uno è centrato sulla figura del Presidente e uno è centrato sulla figura dell'istituzione. Sono scelte politiche, sono scelte personali, sono scelte egoistiche, sono scelte di vanità. Sta a voi dirlo, sta a voi analizzare. Però non c'è dubbio che siano dall'impostazione dell'home page, dall'impostazione dei servizi, dall'impostazione di come si raccontano le cose, in quello della Camera, la preponderante della figura di Bertinotti è totale rispetto a quello che appare nel Senato sulla quasi necessità di andare a scoprire il fatto che il Presidente si è fatto. Stiamo parlando di due istituzioni che restano. Banalità dei presidenti che ci sono il fondamento della democrazia e, della, e del ruolo dell'Italia. Eppure anche in una realtà come quella di internet si può modificare fortemente l'approccio verso le istituzioni stesse. Se voi poteste andare a paragonare, a recuperare il sito del Presidente della Repubblica che si sono succeduti, sono livelli totalmente più alto della nostra esperienza democratica, troverete, nonostante internet ci sia da poco, stiamo parlando di mandati di 7 anni, ma le differenze, prendiamo Ciampi e Napolitano, persone che incarnano, al di là di ogni opinione politica, rispetto e la figura più nobile da parte di qualsiasi cittadino che ha un minimo senso di rispetto della bandiera, della patria dell'Italia, eppure l'approccio dato da due persone al mondo del web è completamente diverso. Nel modo di raccontarsi, nel modo di proporre concetti di bandiera, di patria, nel modo di proporre i servizi, le idee, le mostre, gli appuntamenti del quotidiano. E noi stiamo parlando di realtà che dovrebbero essere intoccabili. Uno è inquilino del Quirinale per 7 anni, ma è inquilinato da Presidente della Repubblica. Internet è diabolicamente affascinante, ti dà la possibilità, ti rende in un certo senso convinto di poter fare tutto, proprio perché è un mondo che ancora non è totale, perché c'è la televisione, perché ci sono i giornali, perché ci sono gli appuntamenti ufficiali, eccetera. Però su internet ti tocca lo sfizio di di metterlo un pochettino più come la penso io, tanto c'è, tanto è più un rapporto diretto col cittadino, non è assolutamente vero, è un messaggio, è comunicazione, in questo caso deve essere separato di comunicazione istituzionale o di comunicazione pubblica, ma ve l'ho voluto proporre proprio per farvi capire che a tutti i livelli, da quelli appunto dove non ci devono essere interessi, la comunicazione istituzionale, a quelli dove non ci dovrebbero essere interessi, ma poi ci sono lotte o questioni di potere, di gestione, c'è sempre, specialmente attraverso internet, la possibilità di creare un canale che non è diretto, nel senso che si apre un percorso di dialogo tra me e te, ma è un percorso nel quale io ti impongo una mia lettura delle cose. Anche su questo, più delle mie parole conta la vostra esperienza, conta il gusto di andare a vedere le cose. Tutte le cose che io vi sto dicendo in questa lezione, poi ve le chiederò, perché quando vi chiederò come ho fatto, si perdonerà. Voi dovete avere la curiosità, non ve le dico a caso le cose che vi dovete avere voi la curiosità di andare a vedere come sono le cose, ma voi vi risponderete, io non sono andato a guardare il sito coreano, sono andato a vedere il sito del presidente francese piuttosto che del presidente francese, politico, del presidente tedesco piuttosto che del presidente della re di Spagna. Io vi dico, va bene, perché secondo me vedere quelli e voi mi risponderete, perché secondo me sull'Italia mi bastava quello che mi aveva detto a lezione, volevo capire se a quel punto mi arrenderò in un bel conto. Dovete voi mostrare la curiosità di questo, perché internet vi dà la possibilità di essere docenti voi, nel senso che sulla base degli elementi di lettura, diciamo di analisi che vi do, voi potete declinarli tranquillamente, non perché io sia bravo, perché voi avete voi le competenze. Avete voi le conoscenze, avete voi studiato queste cose, siete voi a caso in una specialistica, siete voi che dovete essere docenti, non discenti. Andare a vedere come la comunicazione istituzionale oggi è in pericolo. Una volta c'era, non dico l'Araldo, ma c'era il comunicato ufficiale del Presidente della Repubblica che erano due righe. Oggi c'è il filmato, il video, la foto, il coso con i bambini. C'è la da una parte la popolarizzazione, diciamo, la pubblicizzazione totale di quello che si fa, dall'altra parte c'è il rischio di cola, c'è il rischio di esegesi, c'è il rischio di creare dei miti, perché sono mondi che sono totalmente intoccabili. Non esiste un authority di internet che dica, beh, non esagerare, metterti così sul sito o nella foto in costume. Speriamo non arrivi così per alcuni non fosse in costume, però. Chi potrebbe dirgli qualcosa? Si potrebbe dire impazzito ormai, però non esiste una. Per dirvi come c'è un'autonomia attraverso internet, anche per quello che riguarda il mondo istituzionale, cioè il mondo più. Figuriamoci sulla comunicazione pubblica. La comunicazione pubblica è automaticamente comunicazione di servizio, il servizio posso decidere di proporlo a proposito, con un vantaggio che è quello di dire non costa. Perché se devo fare pubblicità costa le affissioni, se devo fare un convegno, faccio tutto online, online non costa, non è vero che non costa, un online fatto bene costa il come, è che non è fatto bene. E anche questo pensato, fare il webmaster non vuol dire avere soltanto delle competenze tecniche, vuol dire avere delle competenze intellettive e intellettuali, vuol dire proporre un modello. Proporre dei modelli di comunicazione è un mestiere. Fare gli strategist di comunicazione per le amministrazioni pubbliche è un mestiere. Potete iniziare a farlo da junior, cioè potete iniziare a farlo seguendo qualcuno che lo faccia per, anche se non esistono poi le persone che lo fanno di mestiere, insomma. Sono poche le persone in Italia che fanno gli strategist di comunicazione. Sono proprio perché sono mestieri che non sono nati da quello, sono mestieri che sono derivati da una serie di esperienze di lavoro fatto. Chi nasce oggi a fare questo mestiere ha grande vantaggio delle persone anziane che l'hanno fatto, hanno fatto molte cose e che possono specializzare dei giovani a fare strategie di comunicazione attraverso l'online, proprio con la comparazione delle cose, con lo studio delle situazioni, con le case history, le best practices, queste stupide cosiddette così, che sono semplicemente l'esperienza. Se l'esperienza viene mirata su determinati progetti, si può decidere di trasformare il volto di un ente locale, perché se c'è un ente locale che non sa comunicare, io ho a disposizione in Italia altri 104 siti di provincia che vado a studiare dall'inizio alla fine, più ho tutte le contee, gli stretti dipartimenti degli altri paesi e vedo come hanno fatto. Sono per forza bravo, divento per forza uno stratega, semplicemente perché studio e so come studiare, so come leggere le cose, so cosa valorizzare, so quanto costa, so essere anche un manager nel web perché so quanto costa quello. E non c'è nulla che sia vantaggioso come nel mondo pubblico da questo punto di vista. Perché? Perché il mondo privato, gli stabilimenti, sceglie consulenze, sceglie progetti mirati sul prodotto che possono essere occasionali perché poi cambia l'idea di puntare sul bollicino piuttosto che sull'acqua liscia e cambiano le situazioni. Il mondo pubblico deve avere delle regole che più o meno sono sempre le stesse. Deve fornire un servizio, deve essere rapido, deve essere efficiente, deve essere mirato alla persona, deve vedere l'individuo al centro delle cose, deve essere comprensibile, scritto in una lingua che non sia con concetti o con parole che lo rendano di difficile comprensione. Poi c'è, deve esserci il rispetto della legge sull'accessibilità. Voi sapete com'è la legge sull'accessibilità su internet. Tutti i siti che voi vedete su internet, non so, avete un sito qualsiasi, che abbia semplicemente una finestra che si apre, non sono possibili dal punto di vista legale, giuridico, normativo in Italia per quello che riguarda la comunicazione pubblica. Ci sono più della metà dei siti che fanno comunicazione pubblica che andrebbero chiusi dal loro giornale, semplicemente perché non rispettano una legge dello Stato. Una legge che prevede in modo chiaro, ma purtroppo non dà delle penali o delle leggi, che non fa scontare delle ammende a chi non la rispetta, prevede che non si possono usare colori troppo forti, immagini in movimento, animazioni, perché questo comporta in una minima parte dell'utenza con problemi di epilessia, problemi di nervosi, problemi di invisibilità, problemi di... Vuoi dire, vabbè, c'è il mio accento, stiamo parlando di comunicazione pubblica. Perché i siti delle amministrazioni, quelli fatti bene, i siti delle amministrazioni, i siti degli enti sono noiosi, sono brutti a vedere, sì, perché lasciano una bella finestra, perché non si può, non perché non si potrebbe, non si può per legge. Questo è una cosa che molte amministrazioni, molti enti, molte società pubbliche o non sanno, fanno finta, soprattutto non sanno. Questo dà l'idea della totale vaghezza di internet in alcune. La legge sull'accessibilità, la legge del 2001, nel 2019, ed è una legge molto rigida, forse in alcuni passaggi troppo rigida, anche per adesso sono cambiati i tipi di schermo, sono cambiati i tipi di visibilità, anche di accesso proprio visivo alle immagini, allo scaricarle, eccetera, per cui si potrebbe forse un attimo, sono quelle normative che dovrebbero andare pari passo con l'evoluzione tecnologica, però si può lavorare. Comunque c'è una legge, una legge di base, c'è una legge rispettata. Poi intanto ma riguarda anche le disabilità. Sì, certo. È la stessa. Certo. Ma è quello del protocollo W3C. Sì. Okay. Il protocollo W3C è un protocollo mondiale, il quale possa andare a inserire. Io tante cose sul sito del governo ho chiesto se potevo fare, ma sempre che no, ho fatto la figura di quello che voleva fare le cose delle ballerine sul sito, ma in realtà io voglio semplicemente ci fosse una volta dei colori, fare una legge. Io ho una persona, ho una persona che mi rompe le scatole praticamente tutti i giorni perché mi chiedo, io vorrei che voi faceste una cosa fatta così, non guardi. piccolo comma, ma questo è un estieso, nel senso che io praticamente dovrei sapere, io sapevo la legge sull'accessibilità, volevo completa un po' rapidamente, pensavo di poterla pregare in alcuni passaggi. Non si può, la legge, posso cercare meglio, ma non si deve, perché quell'1% di persone che hanno problemi di accesso hanno contabilmente un altro 1% che non hanno questi problemi, ma non operato. E voi trovate dei siti, delle realtà pubbliche che sono totalmente corrette. Però su internet si può tutto, teoricamente, no, non c'è questa attenzione, non c'è questa. Ed è uno dei grandi limiti, dei grandi mali di internet in Italia, dell'informatica in Italia, che è il fatto che si stia escludendo questo fenomeno di internet senza un mancanza di regole. Cioè le regole ci sarebbero, ma senza una durezza sulle regole, proprio per permettere che questa esplosione sia in realtà un ampliamento, sia in realtà un'evoluzione, non un'esplosione, perché un'esplosione genera danni, non genera risultati. Quindi da questo punto di vista un ulteriore elemento che va considerato è quello appunto dell'accessibilità, che va unito a quello della tempestività, della correttezza e della completezza. Quando si fa comunicazione pubblica, inevitabilmente bisogna pensare a chi ci segue, a chi è il nostro utente finale. L'utente finale è un cittadino, sempre. Che poi sia sotto forma di famiglia, sotto forma di utente di un servizio, che sia sotto forma di elettore o che sia sotto forma di fruitore di qualcosa, è un cittadino. Come tale ha diritto di avere accesso a tali condizioni. Che la accessibilità è uno, ma non è solo quello. A maggior ragione bisogna saper usare un linguaggio che sia semplice, che sia corretto, che sia percepibile, che non abbia fraintendimenti, possibilità di fraintendimenti. Scrivere su internet vuol dire scrivere a volte in modo banale, in modo elementare, perlomeno per quello che riguarda l'informazione di base. L'intelligenza di usare internet, soprattutto per quello che riguarda la comunicazione pubblica, è appunto quella di far evolvere il linguaggio e il messaggio attraverso una serie di step successivi, man mano che si va nel cuore del problema, nel cuore del tema, nel cuore della proposta. Però tenendo sempre presente che bisogna essere molto, molto elementari, molto piatti, molto, a volte quasi appunto banali. Terroristi, psicologi, che si rischia di non avere, di non far fare, di non portare al risultato il messaggio che si vuole proporre, il servizio che si vuole concedere o doverosamente attuare. Come si fa allora? Si fa semplicemente aumentando le informazioni. Se io non posso essere troppo dispersivo e lungo nei miei ragionamenti e non devo usare aggettivi, non devo essere enfatico perché sto prendendo un servizio, non è che posso dire da domani mattina i nostri splendidi uffici sono a disposizione nel nostro magnifico palazzo di Via della Repubblica dove troverete il personale più gentile del mondo, è ridicolo. Lo si aspetta l'amministrazione pubblica, non ce lo si aspetta da chi per rispondere un servizio. Quindi bisogna essere non freddi, bisogna essere corretti, bisogna essere sintetici, ma si può fare in modo di dare più informazioni, in un certo modo fornire più elementi con una serie di link, con una serie di approfondimenti, con una serie di passaggi. Da domani questa strada è chiusa per la pubblica. è un'informazione. Sotto ci mettono un link, tutta la mappa dei cantieri in giù. Entro nella mappa, faccio in modo che questa mappa non sia che si apra con Google Earth per arrivare a quello che per me la legge sull'accessibilità non lo permette. Faccio vedere la mappa molto statica, ci metto un sito sotto. Sei interessato ai prossimi cantieri che verranno aperti? Questi sono i nostri progetti per i prossimi 6 mesi, intanto vi faccio comunicazione a voi. Perché ti dico che io sono avanti. Ma in realtà ti finisco sentizi. Ma in realtà ti finisco per quella cosa nel detto che poi si tratta. Ma in realtà ti metto in guardia sulle cose che non c'è, non più importa. Queste sono le cose che farò nei prossimi 6 mesi. Un altro link, perché fa parte delle politiche di bilancio del nostro ente, dice il bilancio. Così dimostri di essere trasparente nel fatto del bilancio. Sotto il bilancio c'è scritto, di pure la tua cosa pensi di queste politiche che riguardano. Intanto so che mi sei venuto a vedere che cosa mi dici. Ti do la risposta perché ho delle persone che mi danno. Dall'informazione del servizio che questa strada è chiusa, posso arrivare all'infinito e oltre. Per dirvi come il rispetto delle regole deve essere basato su una forma di autoregolamentazione che non c'è, ma di deontologia professionale dei giornalisti, di deontologia etica, di autority, di garanzia della privacy, eccetera, manca una regola, manca una carta dei diritti, ma soprattutto dei doveri su internet. Manca profondamente soprattutto per quello che riguarda il servizio pubblico. Perché il servizio pubblico è praticamente un'entità vaga, eterea, impalpabile, non si riesce a... Io posso declinarlo senza, non dico senza farmene accorgere, ma con molta furbizia posso declinarlo in qualcosa che poi in realtà non è servizio pubblico. Lo posso fare perché internet permette di cambiare mondo rapidamente. Addirittura posso ingannare la legge sull'accessibilità, perché posso dire, io sul mio sito sono accessibilissimo, se vuoi saperne di più vai a vedere i siti delle società che lavorano per noi, quelle sono accessibili, però lì ci sono tutte le animazioni di tutte le cose, mi metto d'accordo con loro, vi faccio fare i fuochi d'artificio, faccio vedere che io lavoro con società che sono brillanti, vivaci, divertenti, e ho risolto il mio problema di accessibilità. Sono una persona che è un disabile dilettico che vede una cosa da vedere e gli viene una crisi. Io ti ho messo l'informazione, ti ho detto che dovevo andare a vedere. Per dirvi come è terribile e pericolosa la capacità e la possibilità che internet fornisce anche su uno strumento poderoso come quello appunto che è il nostro. Il lavoro dei comunicatori pubblici su internet è un lavoro quindi redazionale molto, ma soprattutto di agenda setting, di redazione anche dei tempi, dei modi, dell'informazione, un discorso di database, di archivio, che anche fase di coordineria di servizi. Se viene interpretato in un'ottica minimale, per certi versi preferibile, perché presuppone comunque un servizio il più possibile corretto, nel senso che ha informazioni di base. Non ne dà troppe, però quelle che dà sono quelle, non le usa per darne altre. A volte non deve essere visto come un elemento di sciatteria di vedere un sito che ha soltanto poche informazioni, ma per certi versi si sono corrette, si sono ben sintetizzate in modo comprensibile, dovrebbe essere molto più apprezzato di siti o di situazioni che vengono invece molto, essere molto rutilanti, molto emozionali, proprio perché vuol dire che si è seguito in senso rispettoso il percorso della legge, ma soprattutto anche il percorso mentale e di servizio nei confronti del cittadino. È un mondo in totale evoluzione ed è un mondo potenzialmente infinito. Se voi fate una ricerca su Google e andate a cercare una società pubblica di un altro paese troverete che c'è un percorso che è completamente diverso, a parte che sono diverse le leggi sull'accessibilità, però è un percorso che presuppone un coinvolgimento dove la parte corporate, chiamiamola così, è rigorosissima e dove, strettamente autodenunciata, la parte partecipativa è completamente diversa. Queste sono iniziative che sono atte esclusivamente a mettere in relazione l'opinione pubblica, le scuole, i giovani e gli anziani con i servizi che vengono proposti dalla holding. Non c'è un mix. Non è poco. In Italia questo non avviene. Qualcuno di voi si mettesse in società, fornisse questo genere di servizi a un'amministrazione pubblica, non ce la farà da sola, perché non ce la farete da soli, però comunque inizia ad essere sul mercato delle idee, proprio perché mancano le idee, i meccanismi che vengono attuati, che vengono proposti, che vengono portati avanti sono ripetitivi, proprio perché sono troppo fantasiosi, non è una sono difficili come servizio, nel senso che sono poco efficaci nel servizio di base, proprio perché propongono troppe cose, proprio perché hanno dei linguaggi troppo enfatici, proprio perché non si capisce se una società venda acqua o venda palloncini. Tu paghi la bolletta, a volte devi dire i servizi per andare a vedere qual è il tuo consumo di metri cubi, quello non lo saprai mai attraverso internet, però saprai che sono state fatte 15 feste nelle scuole per insegnare ai bambini a usare meno acqua. Bellissimo, ma fa parte di una delle tue specificità settoriali come società dell'acqua. Il tuo compito è darmi l'acqua e sapere quanto costa il raffronto della città, perché non ce l'ho, perché sono sopra insaponato sopra la doccia e non ho l'acqua in quel momento. Questi sono i servizi che voglio conoscere. E poi, a latere, voglio sapere, sono felice di sapere che tu vai nelle scuole a insegnare ai bambini a non sprecare l'acqua. Ma sono due cose diverse, non è tutto mischiato. Ho fatto questo esempio per poter fare altro. Perché? Perché internet permette questo. Permette in un senso proprio pratico delle cose. Permette, perché permette di costruire percorsi di chiamiamoli pubblicitari, chiamiamoli partecipativi, parliamo di coinvolgimento, chiamiamoli come vogliamo, però che fanno perdere un pochettino di vista il servizio. Se tu andavi all'ufficio del CAP, andavi all'ufficio della relazione per il pubblico, in accappatoio di saponato, perché non avevi l'acqua, diceva sì, magari stai facendo una bellissima iniziativa nelle scuole con i bambini, dubito che l'uomo dell'ufficio del CAP sarebbe uscito vivo. Su internet a volte hai questi problemi, non riesci ad avere quelle informazioni che sono minimali, perché si è investito tantissimo in una campagna pubblicitaria o di relazioni interne, eccetera, eccetera. Il famoso discorso delle relazioni con il pubblico, delle relazioni con i media, delle relazioni istituzionali, delle relazioni interne, un sacco di relazioni, pochi risultati, pochi servizi, poca concretezza. Perché? Perché non potendo mediare direttamente a volte, anche se lo si fa scorrettamente, ci si affida alla mediazione che sia istituzionale, istituzionale, corporate, attraverso l'ufficio, attraverso i giornali, perché io voglio i giornali delle informazioni in modo che loro rendano chiaramente, diano più spazio alla manifestazione nella scuola, piuttosto che al servizio dell'acqua che è mancata, alle relazioni istituzionali in modo da avere un percorso più favorevole per una legge o per qualcosa. Con la politica, con il Parlamento, con il governo, quello che è. E quindi si creano ulteriori confusioni. Sono tutti mestieri che sono legati alla comunicazione, che sono legati però a un concetto, a una concezione che attraverso internet rischia di essere un autogol, perché attraverso internet il cittadino, il fruttore del servizio, l'utente, sa subito se uno ti vuole fornire un servizio meno. Salta tutte le mediazioni, salta la mediazione del giornale, del quotidiano che ti dice no, sì, ieri mancata l'acqua, te lo mette così, in un trafiletto e ti mette a 5 colonne il fatto che c'è stata la festa per il risparmio dell'acqua nella scuola. tu puoi strappare il giornale per la rabbia, ma intanto tu l'hai strappato, ma altre 50 persone che magari non hanno avuto il problema, non erano nel quartiere dove è mancata l'acqua, li portano per anni che fanno quella cosa. Poi si dice tutto il percorso, il meccanismo del giornalismo, quindi per un ragionamento che avete già fatto in altri corsi non ve lo faremo, però vi dà l'idea delle cose. Ritornando all'inizio del ragionamento, quindi, come quando parliamo di comunicazione pubblica abbiamo di fronte in realtà una serie di mondi, una serie di comunicazioni che sono appunto comunicazioni, non informazioni, proprio perché sono mediate. E sono mediate su internet in modo particolarmente abile. Abile non perché siano fatte bene, abile perché la confusione ancora oggi mette l'utente nella possibilità, l'utente, il cittadino, diciamo cittadini, mette il cittadino nella possibilità di dire vabbè, nel fondo dai, telefono, nel fondo dai, ci vado. Quando l'internet sarà preponderante, come lo è nella vostra vita universitaria oggi, cosa che non era per i vostri colleghi 3, 4, 5 anni fa, ma 3 anni fa, quando voi avete iniziato il vostro percorso in questa università, non usavate internet come lo usate adesso. Basta questo, non è la vostra esperienza. Quando fra 3, 4, 5 anni internet sarà preponderante non solo nella vita universitaria, ma nella vostra vita globale, intendo internet per dire il computer, per dire gli accessi informatici, la mail, le altre tecnologie, gli sms, la banda larga, il web, tutto, farete tutto sul palmare, non solo sul laptop e sul PC. A quel punto non potrà più esserci questa confusione in comunicazione, dovrà esserci specializzazione in comunicazione, perché altrimenti non è che si è fuori dal mercato, ma si è fuori dal consenso, non si è fuori dal mercato perché parla di comunicazione pubblica, quindi non è che io scelgo la Coca-Cola, la Pepsi o la Mirinda, scelgo, io sono, lavoro, vivo in quel paese, in quel comune, ho quella società che mi fornisce quei servizi, che è una società pubblica, pretendo che mi risponda in un determinato modo che mi deve essere. Altrimenti si andrà verso quella confusione che crea la mancanza di consenso, che può valere per il politico, del comune che non viene diretto, ma per tutte le società collegate a quel mondo che non otterrà un'ulteriore possibilità di amministrare la cosa pubblica. Quindi anche da questo punto di vista siamo a un momento di svolta, siamo veramente allo spartiacque tra quello che è stato finora il mettere dentro, il buttare dentro internet della comunicazione e quella che dovrà essere in futuro, da subito, da oggi, per non dire da ieri, la comunicazione pubblica settoriale, di servizio, comunicazione pubblica che sia realmente non tanto solo accessibile, ma anche percepibile, fruibile, usabile, perché l'usabilità non è l'accessibilità, sono due concetti di internet e dell'informatica che vi prego di approfondire e di studiare. Quando vi chiederò la differenza tra accessibilità e usabilità è profondissima. Noi che abbiamo delle regole vaghe, ma comunque abbastanza rigide di accessibilità, non abbiamo regole, abbiamo una grande confusione di usabilità, grandissima. Perché poi non esiste un protocollo di base per cui i servizi appaiono tutti nello stesso modo. Vi faccio un esempio stupidissimo, che non è quello dei... Anche ad esempio l'informazione online a un certo punto l'ha saputo usare. Lo sapete meglio di me che le homepage, i siti e i portali sono divise quasi sempre in tre parti, c'è cioè una parte centrale e due colonne all'interno. Sono un po' più larghe, quella centrale e due colonne. Non si riesce a capire per quale ragione le informazioni istituzionali, le informazioni di servizio, a volte appaiono a sinistra, a volte appaiono a destra. Voi mi direte una stupidaggine. Se la colonna di sinistra è quella che deve essere istituzionale, che spiega i tipi di servizi, la realtà, eccetera, eccetera, e dall'altra parte tutta la parte di servizio bidirezionale, scrivimi, mandami la tua, il tuo commento, la tua richiesta, eccetera, eccetera, a volte sono diversi. Non è fantasia, è sciatteria. Però chi dice chiaramente io posso dire la mia e dire che a sinistra ci va l'istituzionale, a destra ci vanno i servizi, perché anche in un video l'occhio cade a destra, quindi è immediatamente più percepibile, eccetera, quindi lascio che al centro ci siano le politiche, diciamo, di servizio, le novità, le ultime notizie, il flash, l'ultimo momento, eccetera. Però puoi trovare gli enti pubblici in realtà amministrative, in società pubbliche, il fatto di trovare di qua e di là le cose, a seconda di. È un banalissimo esempio di come manchi, no, non delle regole, ma manchi un modo condiviso di proporre delle cose. Poi c'è, parliamo delle risoluzioni, per sapere che c'è una risoluzione per cui tutto deve stare nella visione del computer. Ma la visione del computer attuale, se uno lo schermo a 14 pollici, o 15 pollici, o 16 pollici, ci sono delle regole ormai con tutti, avete in casa più o meno tutti dei televisori, dei computer, degli schermi di computer, perché c'è la miniaturizzazione per quello che ci si porta dietro, e a casa c'è plasma 80 pollici per avere la televisione, per essere dentro il film, il computer che ha uno schermo gigantesco che non serve assolutamente a niente, però più è grande e più è affascinante, è la risoluzione che tu usi delle cose che usare, anche lì ci sono delle specificità tecniche che sapete anche voi. Quando tu prepari dei siti che devono anche viaggiare su palmare, devono avere una risoluzione di un certo tipo che cambia completamente, perché dall'altra parte deve esserci anche la forma e il carattere, che carattere usare, che tipo di carattere usare, che fonte usare. Tutto cambia perché non c'è, non è come questo che si debba imporre per legge che tutti gli schermi a casa devono essere di 17 pollici, però bisogna usare una via di mezzo. La via di mezzo prevede che la risoluzione sia 800x600, non più, 800x800, sempre di più, scrolling o non scrolling, tutta una serie di cose che per quello che riguarda l'amministrazione pubblica è totalmente lasciato al caso. Ci sono dei siti che corrono in verticale, dei siti che sono statici, fermi lì, la risoluzione della pagina quando si apre, perché il webmaster ha deciso così, perché era più bello, poi ogni 6 mesi cambiano, perciò. Perché ormai si è preso il gusto di cambiare come quando si fa il cambio degli armadi, non mi sembra che cambia perché è più colorato, più diverso, è un nuovo sito. Quindi anche da questo punto di vista ci vuole molta prudenza, ci vuole molta. Non stiamo parlando di un prodotto commerciale, stiamo parlando di un servizio pubblico, quindi ci vuole anche rispetto di chi lo utilizza, non deve esserci una novità così eclatante, così eccitante per poterla trasformare in qualcosa di migliore o più avvincente o più utile soltanto perché è più bello. Non è un problema la bellezza del servizio pubblico, della comunicazione pubblica, l'efficienza della comunicazione pubblica che ne fa la bellezza, perché porta al risultato. Sono discorsi molto teorici, ma devono essere anche tradotti in pratica. A parte l'università, voi adesso mi recupero un po' di voce, a parte l'università, voi che realtà pubbliche usate quando avete o istituzionali o pubblico di servizio? Vi capita, non vi capita? Esprimetevi. Il comune, le appartenenze. Cioè io ad esempio guardo moltissimo le notizie ultimamente, perché ho giù dove sto io, ci sono le amministrative di città, e guardo le ultime notizie su, per esempio l'altra volta guardavo e diceva che era uscita la graduatoria degli scrutatori delle politiche, delle elezioni amministrative, per esempio. Oppure ultime notizie su manifestazioni. Mi capita di guardare spesso le notizie di comune? È comunemarsala.it. non lo trovo, non sai dove vivi. O è comune, non mi ricordo se è col punto comune, sì, punto marciato, no, punto comune, punto marciato, punto marciato, punto marciato. Allora, vuoi l'indirizzo? Sicuramente adesso lo apriamo e vediamo se. Però per dirti l'accessibilità, in questo caso disabilità, ma anche l'accessibilità, perché una persona che si ricorda di fare Flex CMB, perché è una società che si è presa lo stato il sito e non ha per tenersi la proprietà in accedere alla comunità sala, sorteggiato il sottotitolo. Stavo sorteggiato? No, no, io avevo. Sì. Ma poi anche per curiosità, non per altro. Non... Sì, benissimo, ha la parte delle istituzioni dal lato giusto, i servizi dal lato giusto, ecco, poi c'è un tour virtuale per fare un tour a 360 gradi che sposta lì sull'accessibilità, si gira e si va sul tour virtuale che evitiamo di fare, ci prendiamo sempre bello, bello, bello. Bene. Ad esempio, prendiamo come la sala a Palosiano. C'è un mix di servizi, c'è una parte sulle istituzioni, sindaco, la giunta, il consiglio, ufficio servizi, segretario generale, difensore civico e statuto comunale, sono quelle normali che si trovano in qualsiasi realtà, gli atti pubblici, così da avvisi importanti, bandi a parte, delibere giunta, delibere di consiglio. E la guida della città, i servizi anagrafi, i servizi cimiteriali, i diritti e doveri, c'è un po' di mix, i diritti e doveri abbiamo messo sotto lo statuto, vabbè, non si può avere. I servizi, dall'altra parte, sono i tributi, informazioni fiscali, fisco online, autocertificazione, consultazioni banche dati e riservate, moduli di eventi, segnalazioni guasti, archivio e lezioni. Cioè sono mischiati i servizi di immediatezza, che sono non sono immediatamente fruibili, l'usabilità già è vincente in questo caso perché la parte che può riguardare l'emergenza è mischiata insieme ad altri servizi che sono di un ampio anno, il fisco, il pagamento delle tasse, cioè una volta in sei mesi, la segnalazione guardi, ci può essere un impatto. Poi c'è un grande spazio dedicato alla cultura e al turismo, c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter, però manca completamente un discorso relazionale. L'unica relazione che puoi avere con il comune di Marsala è segnalare un guasto. Quindi o ci sono molti guasti da cui c'è la possibilità di scrivere spesso. Sì, molti guasti. Anche in situazione di Marsala, o non esiste in tutta la page, quindi presumo in tutto il sito, la possibilità di scrivere. L'unica cosa c'è un link contatti che noi andiamo a cliccare a fiduciosi, dove si aprirà una mail con scritto link. Per scrivere la commenta. Non c'è un nome di una persona, cioè non c'è addetto a quest'area a cui è, perché io sono comune ma non sono di, non sono tenuto a dirti chi sono. Questa è una follia, il signor Flex CMP non fa, non dà un buon servizio a comunicare, soprattutto per una scala. Non fornisce una serie di comunicazioni, di nomi, di realtà, non è perché su internet la chiocciola sostituisce il nome, il volto dell'ufficio, relazioni, ci deve essere un problema, ci deve essere. Perché sai con chi stai parlando? Perché c'è una persona che si deve prendere la responsabilità di quello che ti dice, non si può rispondere dietro. Questa è la mancanza di un servizio, questa è la mancanza di un servizio al cittadino fondamentale. Ed è quindi è un sito discretamente accessibile dal punto di vista tecnico, assolutamente non accessibile, è stato detto dal W3C, quindi assolutamente sì, alla dichiarazione di accessibilità, ma non è usabile. Non è usabile nel senso che non dà servizi. Sì, perché a noi c'è la... per avere informazioni sulla mailing list del comune di Varsavia. Scrivi la mailing list che piace al comune di Varsavia, come ti fa? Tu cos'è la mailing list? Perché la mailing list? In base a quale legge? Da noi c'è la cosa di andare... Io adesso non voglio pubblicare no, no, no, non so nemmeno... Ma io... ho la massima stima per tutti. No, ma il fatto è che noi viviamo moltissimo, cioè non abbiamo la maggior parte della gente che sta giù, la dimestichezza di utilizzare il computer. Allora bisogna essere... E abbiamo moltissima, come si dice, abbiamo il colloquio, cioè di persone. Andiamo al comune. Se questo non è un modo per educare a non avere contatto. No, infatti è una cosa sbagliata. Ma... Che risponde Beppe, che sono per una cosa con lo scrivere, sì, c'è qualcosa. Infatti. Ma comunque il dirigente che si assume la responsabilità delle risposte è. Perché non è concepibile che ci sia info, chiocciola. È l'info che. Ripeto, questo è un esempio del fatto che sia che vive fuori di Palma. Non facciamo più di Palma, chi è il comune a guardare? Brindisi. Vediamo. Tu hai mai usato il sito di Brindisi? Sì, l'ho utilizzato anche un po' di giorni fa. C'era? Sì, certo. Questo è il comune appunto a Brindisi con 20, già 10 punti più si è andato. Prima ancora di aprirsi. Imposta la dimensione dei caratteri, qua c'è sì, cioè si può guardare, questa è un'altra cosa che non è obbligatoria sulla legge dell'accessibilità, ma che in informatica va usata, che sui giornali online non usano, il fatto che tu puoi vedere i caratteri più grandi o più piccoli semplicemente clicca su una parte e poi memorizzando la verifica. Allora, un elemento che addirittura utilizza, ha fatto una ha fatto una convenzione con una società di stampa, con un'agenzia di stampa che viene tra una scheda delle notizie. È una scelta, è quella di fornire, di fare di usare il sito del comune per fornire le notizie giornalistiche. Ha fatto sicuramente una gara d'appalto, la viene Cronos avrà vinto questa. Anche qui a sinistra il comune, i settori, le politiche, gli assessorati, a destra i contatti e i servizi. Visto così, se presente è molto, dal punto di vista grafico, è un po' modesto, soprattutto i colori molto romantici, il rosa, avete fatto dei blog più belli voi, quindi quando torni a Brindisi si può proporre di più. Tornando ai contatti, questo scorre. Qui c'è il nome di un responsabile disegnato dal servizio informatico del comune, dal signor Francesco Mugoli, che ci mette il suo nome e la sua faccia. C'è il concerto con Giovanna, 12. Andiamo ai servizi, vediamo. Ci sono i bandi, scrivi al sindaco, vediamo se al sindaco ci sarà una finestra, vedete, sembra una stupidaggine questa, però anche soltanto curiosare, si dentro altri ad evidenziare una serie di cose belle qui, meno belle lì, utili, non utili, che proprio con la conoscenza di alcune regole di base, di alcune normative, di alcune leggi, vi permettono di diventare scrivere il sindaco, inserire il nome, inserire l'oggetto del messaggio, inserire il testo del messaggio. Vediamo quanto può essere lungo. E poi c'è sempre il problema della presenza. Vediamo. si può scrivere per amore, non c'è problema, sì, ma non voglio di leggere. Indietro il, eh sì, è molto semplice, è un format però pericolosissimo perché non è filtrato del bene, però non c'è scritto di voi parlare delle attività, delle cose, quindi è, rischia di dare l'idea che poi non abbia risposto, tra l'altro non ci sono le risposte. Ci sono le possibilità di scrivere, ma non ci sono le risposte effettive da parte del mondo. Numeri utili, i ultimi, indirizzo email, call center, c'è un call center, ma non c'è un servizio di, ad esempio, di, anche qui inserire il nome, il call center è scritto, non c'è un numero unico, è un call center in cui devi scrivere, no? Chiamare, poi gli dici, sta chiamando, c'è anche il numero, c'è 083153, c'è la possibilità, è scritta in modo così. E per quello che riguarda invece la possibilità di scrivere a servizi particolari, dice, anche qui c'è molto da lavorare, però c'è come minimo una serie di... Abbiamo il contatto per vedere se qualcuno si prende la responsabilità di quello che pubblica. Questo è un altro limite. Non esiste un direttore del sito, in fondo è il giornale della città, è una cosa che voi potreste proporre di fare, perché la legge 150 ve la consente. Quindi, pensateci. Altri comuni, un ultimo comune poi vi lascio il bacio. Grazie. Non vale. Non vale. Non vale, facciamo così. Firenze è un bel sito, sì. Quindi, vediamo. Per quanto non è questione di grandezza di città, non è questione di poter fare, perché i costi di servizio del genere sono uguali, per tutti sono relativamente bassi. Facciamo per un discorso di... qui si è scelta una... qui si è scelta una risoluzione orizzontale, una risoluzione storica. Qual è il sito? Comune.firenze, sono tutti normali tranne Marsala. Ah, solo Marsala, cioè. No. Cosa succede? Allora, io adesso ho dei problemi di aprire e partire i servizi, abbiamo i servizi, è proprio una rete civica, quindi c'è tutto un progetto, una cosa. I soggetti, i luoghi, acqua, ambiente, giustizia, illuminazione, informazioni, lavoro, c'è troppa roba e c'è poca, no, non lo dire che me lo ricordo, ma ha cambiato da poco, non lo so, perché non me lo ricordo così, devo dire che me lo aspettavo meglio, è tutto insieme, c'è un elenco lungo di cose, ma non c'è un percorso, vedete, questi sono i servizi. Prima di trovare quello di cui ho bisogno, o sono già morto avvelenato, o telefono, perché c'è tanta roba. È così da almeno un anno. Sì, non me lo ricordo io, forse mi confondo con la pronuncia. Partiamo, voglio informazioni, clicco informazioni. Ufficio relazioni con il pubblico, di nuovo, altri 50. Andiamo all'ufficio delle azioni con il pubblico. Allora, direttore, il direttore Sergio Goretti, il funzionario Angela Bagiardi, così si fa, c'è le mail. Questo è i sedi orari, cosa fanno gli URP, come funzionano gli URP, i servizi speciali, il comune ascolta gli immigrati cinesi, ecco, questo non ha senso, cioè, non perché non devo ascoltare gli immigrati cinesi, non ha senso. Ci vuole una pagina sintetica su cos'è l'URP e poi quello che fa l'immigrato cinese è una cosa che viene successivamente. Ma non perché non debbano essere messi sullo stesso piano, perché un conto è servizio di base e un conto sono le servizi. Quindi questo è sicuramente da migliorare. Però, da migliorare, c'è anche il servizio per non udenti, questa è una cosa sulla quale molti siti hanno il fatto che molti servizi sono anche per vocali, c'è la possibilità di, ovviamente, sapete meglio di me che la legge sull'accessibilità prima di tutto prevede che siano consultabili i libri dalle persone non vedenti, non dico vedenti, quindi tutto il percorso per ripartire speciale. Questo direi che è un po' curiosate sui vostri mondi. Ok? Noi ci vediamo lunedì e spero che finalmente riusciremo tutti a avere una giuria per anche gli occhi. Ecco però, comunque, c'è qualcosa che non va. Cosa fanno? Le competenze di cosa fanno, le novità e tutto, l'ultimo aggiornamento sarà in novembre 2000. Meglio la selezione di allenatori di massa. Grazie.